Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Può capitare, per eventi emotivi inspiegabili, incomprensibili e talvolta definitivi, di perdere la propria corporeità, di abbandonare la forma più concreta e tangibile della propria esistenza. Ci si dimentica di quelle linee, di quei contorni, addirittura di quei colori, ma una voce? No, non è possibile. Il suo colore, le sue inclinazioni e sfumature possono restare impresse per sempre, al di là delle barriere e dei limiti che la vita ci presenta. Ciao ragazzi, io sono Paul Walker. Purtroppo non abbiamo avuto modo di salutarci. Vorrei cogliere l'occasione e farlo adesso. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ci vediamo presto. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Un inizio un po' evocativo quest'oggi. Abbiamo approfittato, parlavamo della mancanza di corporeità, ma la possibilità di avere ancora una voce che racconta un personaggio che ci fa sognare. E lui è qui al mio fianco ed è Riccardo Rossi. Benvenuto Riccardo. Ciao, grazie Pino, ciao. Abbiamo ciao, ragazzi, finito grazie. La famiglia praticamente. Eh sì, sono finito. Mia sorella è venuta. Mia sorella è venuta. Emanuela Rossi, è venuto ovviamente fratello. Massimino Rossi, sì. Togliendosi le pantofole l'abbiamo fatto uscire. E Riccardo è quello più disponibile, eccolo qui, in nostra compagnia. Sembrava giusto cominciare così, non voleva essere mancanza di rispetto, ma volevamo far capire l'importanza evocativa della voce. Lo sapete perfettamente, avete imparato ad amare questa trasmissione, anche perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante del mondo, non ci sono corpi che tengano. E allora benvenuti a Voice Anatomy, questo viaggio nei meandri e nelle declinazioni della voce. Vi ricordo i nostri numeri, anche se li conoscete perfettamente, per partecipare in diretta con noi: 800 24 00 24 o il numero degli SMS, sapete, li leggiamo tutti, 349-238-6666. I nostri podcast sono a disposizione, e anche questo lo sapete perché sono scaricati in maniera veramente interessante e incredibile tutte le settimane. E i nostri siti, i social, Facebook, Twitter e quant'altro. Ma entriamo nel vivo del nostro programma con il nostro attore, doppiatore e quant'altro, ma soprattutto un grandissimo professionista, il signor Rossi. Eccoci. Che sembra quel signor Rossi, sembra un uomo qualunque. Sì, sì. Ragioniere. Però vedete la bellezza, io posso avere vicino a me in questo momento Johnny Depp. No, Johnny Depp poco. E anche, poco. Fabio Boccanera, sì, che già esatto, ci sta. Esatto, però sì. Posso avere, sì. Ben Affleck, sì, posso tanti, avere tanti attori. Quanti posso avere? Sì, ho avuto, in tanti anni di carriera ho avuto la fortuna di fare tante cose, ho avuto il privilegio. Anche la fortuna di fare. Vedi tante il rispetto cose. Di una professione. Sì. Tu hai cominciato prestissimo, lo so, sì, perché anche tua sorella l'ha raccontato. Sì, per cui sì, eri uno dei gattini. Sì, degli Aristogati. Era 1970, gennaio del 1970. Quanti anni avevi quando hai avevo cominciato a miagolare? Cinque anni. Non leggevo. Ho iniziato così per caso e poi dopo è diventata la mia professione, è durata tutta la vita praticamente. Ti hanno chiamato perché ha cominciato prima tua sorella, prima tua fratello, oppure direttamente? Ha iniziato in prima mio fratello, che è il più grande di noi. Poi lui è stato un grande sportivo, tu Pino ne sai qualcosa. Sì, sì. Poi si è dedicato, esatto. Sì, poi ci siamo dimenticato tutta questa situazione sportiva. Lui si è mangiato il pallone, io la panchina. Esatto. Ed è finita lì. si è dedicato molto più allo sport quando era ragazzo, giustamente ha fatto una vita più sana. Io e mia sorella invece ci siamo dedicati da ragazzini. Poi lui è diventato forse il più bravo, secondo me, di tutti noi. Ma ora è bello sentire parlare un fratello del proprio fratello dicendo che è il più bravo. No, secondo me siete diversi e straordinari tutti sì, e tre. Sì, sì, sì, no, sì. No, siete completamente, ognuno ha una fetta di mercato completamente esatto. differente. Delle fasce. Devo dire che la più bella è Emanuela, sicuramente. Sì, quello sì, fra quello i tre. È vero. Ma no, era bella pure se eravate donne voi due. Non oso pensare voi con i capelli lunghi. È vero, Manu. L'unico, però l'unico neo c'ha il marito, mia sorella. Esatto. Pannofino. Che è Francesco Pannofino che deve venire. Ah, ancora non è ma venuto. Ma sta sempre in giro in tournée. Stanno in tournée tutte e due. Sì. Esatto, per cui sì, come sì, torna sì. Pannofino e Ward devono venire assolutamente. Assolutamente. Non possono mancare. Due cannoni di Navarone, così. Ho capito, però la tua voce è bellissima. Nel senso che è una voce particolare. Uno dice la bella voce, io lo dico sempre. Non è la bella voce timbrata certo, che certo. fa le cose belle. Sono le belle intenzioni. È vero. È il colore della voce che ti accompagna. Questo me lo insegnava sempre Cesare Barbetti. Mi diceva, non ti preoccupare della voce, tu devi dirla bene, devi metterci l'anima, non ti preoccupare della voce. Forse perché neanche lui aveva una voce da cannone, però una voce molto affascinante. La voce da cannone serve magari per l'eroe che deve tuonare su un cavallo e spronare la gente. Esatto. In un attacco, lo dico sempre, voi pensate ai leader della storia che abbiamo cominciato anche a studiare tramite dei professori. La voce perché diventa importante, che tipo di decibel ha, quanto si sfiorano le corde vocali. C'è stato uno studio un paio di settimane fa sui politici di tutto il mondo per capire per quale motivo una persona segue quel politico piuttosto che un altro, ed è stato molto interessante, ed è uscito anche fuori che pensa il 7% soltanto una persona dà retta ai contenuti, il 40 è la voce, il resto è il corpo. Pensa un po' quanto è importante la voce in tutto questo. Per cui noi tu fai musica questo. Adesso io sono stato in Inghilterra per una cosa, vabbè, non posso neanche troppo dire perché abbiamo doppiato Batman verso Superman. E il supervisor inglese ci diceva tu sei Ben Affleck. Sì, io faccio Ben Affleck, faccio Batman sul film, e ci diceva avete sempre, ci hanno fatto vedere il film in inglese chiaramente, perché quando poi arriva in Italia tu lo doppi con l'otturatore, non vedi niente. Quindi loro che fanno? La gente non lo sa che certi film ci arrivano soltanto con la faccia della persona che doppi. Nemmeno, poi si scurisce. Neanche la faccia, però si gli inglesi che devi fanno, capire. Come diceva il povero Matassi, te lo fanno vedere prima a Londra, perché non esce da Londra, quindi tu te lo devi ricordare. La faccia è quello che diceva. Tutto quello come che dice, quindi tu lo sai perché l'hai visto. Comunque lui ci diceva, sentite come sono tutti insieme, come sono musicali, cioè sono partitura. Tutti strumenti che suonano la loro partitura. Ecco, voi in italiano dovrete essere così. Ma loro lo sanno che siamo i migliori al mondo, per sì, cui sì, però fanno finta di no, perché sennò poi ha ci dovrebbero dare più soldi. Tocchiamo questo tasto, perché la gente pensa che si navighi nell'oro. No, invece no. Anche un Tobey Maguire meraviglioso di Jerry Maguire, il film che dove come tu facevi Cuba Gooding. Cuba Gooding Jr. Che ho conosciuto, perché è venuto a Roma, venne a Roma con Tom Cruise. Il film poi vinse l'Oscar, lo lanciò, certo. E poi invece non successe più niente. Qual era la frase che dice sempre lui il film? Show me the money. Coprimi di soldi. Che è difficile dargli quell'intonazione da ci nero. Ci sono, vedi però con nella voce come rimangono delle cose. Per esempio, come rimangono nella voce delle cose. Per esempio, per Donnie Brasco è rimasta famosa. Esatto. Che te lo dica a fare? Pino ce l'ha piccola, che te lo dica a fare? No, volevo dire. E lui dice nel film invece. Non è vero. No, è normale. Vabbè, andiamo. Nel film dice Bubi, perché che te lo, la gente all'FBI gli chiede cosa vuol dire che ti ha affogato a Biden, cosa vuol dire che te lo dica a fare. Lui dice, beh, che te lo dica a fare vuol dire Pino ce l'ha piccola, che te lo dica a fare. Oh, ma si può cambiare una bella figa, che te lo dica a fare. Ma si può cambiare metafora. No, perché gli ascoltatori devono sapere. Ma poi, non è vero. Alessia non c'è. Mia moglie, certamente. Bene, intanto dall'altra parte vedo che meno male che ho chiamato quello della famiglia che ci tenevo di più. Guarda com'è andata a finire. Dall'altra parte del vetro c'è quest'oggi alla fonica il nostro ingegnere del suono Alessandro, grazie. Gaia come sempre pronta, nostra caporedattrice. Damiano di là e là, invece il capo progetto Alessia Navarro è impegnata a teatro con il grande Frida Kahlo, il ritratto di una donna, per cui ci sta soltanto ascoltando e poi sarà in scena al Teatro della Cometa a Roma, cosa molto molto importante. Per cui tu poi Christian Bale, roba Christian tua. Bale, sì. Beh, Christian Bale non l'ho doppiato però su Batman. No. E infatti posso su American Psycho l'hai fatto American tu. Psycho era un film bellissimo. Bellissimo. Sì. Io credo che lì sia il primo film dove l'ho doppiato e guardandolo ho detto, ma questo è... È geniale lì. L'attore più bravo che abbia mai doppiato. E infatti poi dopo ha avuto una carriera pazzesca. Lui è straordinario. Adesso chi lo segue? Il nostro Christian Jansante? Non lo so. Lui è Bradley Cooper, è vero. Bradley Cooper. A noi ci capita di doppiare un attore. Sì, di cambiarli, certo. Anche perché molte volte si doppia più il personaggio, diciamo, che l'attore. Ci abbiamo un Ben Affleck dannato, un Per Harbor? Sentiamoci un Ben Affleck un attimo. Per Harbor. Sì, ma guarda, non c'è bisogno che mi spieghi niente. Devo spiegarti, perché mi tratti come se non ti avessi mai amato. Evelyn, è il mio amore per te che mi ha tenuto in vita. La mia sorte era segnata. Mentre ero sott'acqua, ho fatto un patto con Dio. Gli ho detto che ero pentito, che avevo capito di essere stato un pazzo a lasciarti per andare laggiù a fare l'eroe. E ho promesso che non avrei preteso nient'altro. Solo poterti rivedere ancora una volta. E vuoi saperlo? Ne è valsa la pena. Beh, ero più giovane. Ho capito, però è bello. Cioè, è bellissimo. Sai che c'è? Diventa ancora più affascinante seguire un film senza le immagini ogni tanto. Io ho provato una volta a farmi dare soltanto la colonna degli effetti e della voce, e ti accompagna come un bellissimo audiolibro. Sì. Ed è ancora più evocativa, perché lì capisci la profondità e la bravura di un interprete, e tu sei straordinario in questo. Grazie. Ma Pino, non te lo grazie. Dico perché siamo per radio, dove mi fai convenevoli, perché tu non hai fatti nei miei confronti, anzi. Hai elargito perle di saggezza. Ma no, a proposito di decime, citazione del film. Ma hai detto Pino, parlare anche, vabbè, lì diceva Bubbi sul film. Pino lascia Bubbi, è la stessa, capito, le stesse sillabe, Bubbi Pino, ma non c'è il sync qui, per cui perché va bene così, era un ci fai voce di Mugato per un pezzo di programma. Ansel va un casino quest'anno, ho capito, ma c'è il grande Riccardo Rossi e abbiamo quasi già finito il primo blocco insieme, ce ne abbiamo altri due, per cui tranquilli, Enrico Sarnelli è sempre pronto a seguirci come tantissime persone, perché sono arrivati gli ascolti di questo semestre e noi vi ringraziamo di cuore, perché ci state decretando a Radio 24 un successo sperato, non insperato, perché ci sono dei contenuti importanti, la domenica, anche il weekend è cresciuto molto, e grazie. Rimanete con noi, Riccardo Rossi al mio fianco con tutte le sue miriade, Uno Nessuno e 100.000, e Voice Anatomy è appena cominciata. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Pronti, presenti, 14:46 primi e 6 secondi in diretta alla Radio 24 Voice Anatomy. Il vostro Pino Insegno, ovviamente accompagnato alla grande da Riccardo Rossi. Ciao ragazzi. E tutti quelli che interpreta, uno diventa tripolare, quadripolare, non ti capita? Sì. Beh, abbiamo tutti sdraiato a migliaia di psicologi. Sì. Io faccio questo mestiere da 46 anni. Non sai più, sai chi sei però. Sì, lo sai. A volte uscivo dai turni e dicevo, ma io chi sono? Nello stesso giorno facevo il diavolo e Gesù Cristo. Sì, in tre turni diversi. Capito di essere vittima e carnefice. Sono io? Però aiuta moltissimo a esorcizzare tante cose, sì, perché sì, ognuno di noi ha dentro di sé il demone, la cattiveria, la bontà, sì. Tutti. Sì. E lo sfoghi. L'ha mai utilizzata la voce per fini secondari al doppiaggio o al cinema? Ma io sono uno abbastanza timido, devo dire la verità, però è capitato, cioè, poi la voce è veramente evocativa, cioè questa vibrazione come la musica, no? È una vibrazione evocativa, mi è capitato tante volte, adesso mi capita tantissimo che magari sul taxi mi riconoscono, perché non guardandomi in faccia mi sentono parlare, dico guardi scusi, volti lì a destra, poi devo andare a piazza via Margutta. Oddio. E mi dicono, ma scusi, ma lei va a doppiature a che Roma? C'è un Matt Damon. Esatto, perché non guardandoti in faccia la voce gli evoca qualcosa. Ti dicono, certo. Ma io ho visto un film l'altro giorno. Oppure mi è capitato a migliaia di chilometri di distanza. Ero a San Diego, a una ragazza dissi, guarda adesso, eravamo al teatro, adesso questo inizia, farà così, farà qua. Ma guarda, mi ha detto, tu fai il doppiatore? E ho detto, sì, è brava. Dice, io conosco un doppiatore. Dico, davvero? Dice, sì, ma è uno, è italo-canadese. Si chiama Kevin. Chi è? Dico, ma chi io è? Non italo-canadese. No, lo voglio sputtanare in diretta. Lo voglio dire qua. Spero che lui ci ascolti. Questo è successo tanti anni fa. Dio, ma io conosco nessuno doppiatore. Cioè, praticamente era Kevin Pezzulli, che no, si era spacciato per italo canadese. Francesco Pezzulli. Francesco pilota di aerei. No. Cioè, lui ha detto, facciamo il doppiatore. Diciamo, anche che è venuto a far tutti, figo. Sappiatelo, sappiatelo. Il doppiatore di Leonardo DiCaprio, attore, è un amico veramente formidabile. Però era bugiardo, adesso senti, non più. Chiamiamolo, allora chiamiamolo, c'è il mio telefono di là. Cerca Francesco Pezzulli. Sì. E chiamalo, digli se interviene in diretta, perché sì, deve difendersi. Sì, deve difendere, perché, è vero, scusate, ho fatto forse una porcata. No, però, no, però no, la verità, no, hai detto le cose peggiori nel primo blocco su di me. Io sono in diretta, non riesco a difendermi, sì, ma non perché non sia vero, ma chiudiamola quella parentesi. Cerca Francesco Pezzulli e chiamatelo immediatamente. No, ma infatti lui giocava benissimo anche al cinema, l'ho sentito dire, ti fidi di me, ti più fidi volte, di me, sì, sperando che dall'altra parte ci fosse una persona che in Whistler ti dice, cavolo, ti cambio sul Titanic. Ieri ho fatto una cosa molto carina dove citavamo proprio questa cosa, perché io faccio la voce di Bear Grylls sui suoi D-Max e lui porta uno ha portato Obama, quindi sarà una puntata bellissima. Un'altra c'è Ken Winslet che fa un'avventura insieme a lui. E lei a un certo punto si deve buttare da un costone e lui da sotto gli dice, vieni, ti fidi di me? Fallo. Ho dovuto citare Pezzulli perché in italiano noi conosciamo quella cosa con quella voce lì, con quell'intonazione lì. Ah, perché non hanno chiamato... Non hanno chiamato Pezzulli, beh, certo. Che tu poi fai quell'altra serie che io ti prendo in giro scherzando. I nani. Bill e Jen. Esatto, che è interessantissima. Però hanno smesso adesso. Credo che lui abbia dei problemi, dei problemi di salute, perché... Insomma, poverini, allora, insomma, ce n'hanno di problemi. Però quella cosa lì è divertente, nel senso, è interessante, anche perché fa vedere uno spaccato di... Riuscite a beccarlo? Lo trovate? Pezzulli è introvabile. Stiamo provando a cercarlo. Forse sta, signori, guidando un aereo. Forse intanto sta pilotando. Voglio un aereo. Sentirmi un Johnny Depp, senza nulla togliere all'amico, no, fraterno, no, no, Boccanera, carità, che lo carità, segue, no, poi no, è stato anche ospite. Certo. Però tu c'hai un Blow dannata. Che bello Blow, che bel film. Sì, molto, molto bello. Da recuperare, mi raccomando. Andiamo su questo bel Johnny Depp. Questa è una piccola fetta del business, molto piccola. Anzi, a proposito, dovresti farmi un favore. Il favore era ritirare 50 kg di cocaina. 50 kg. 5 volte 10 kg. Non era esattamente un piccolo favore. Non come scroccare una sigaretta. Ma che cavolo. Non avevo niente di meglio da fare quel giorno. Neanche fossi stato in libertà vigilata. Come va? Sono Giorgio, un amico di Diego. E dai, e dai, tu e... poi che è tuo bello, cugino bello, Fabio, sì, oltretutto. Sì, sì, sì. Beh, io l'ho doppiato fino a un certo punto, poi quando lui ha fatto personaggi diversi tipo i Pirati dei Caraibi, l'ha doppiato Fabio benissimo, quindi... Adesso qualcuno arriverà sempre con un messaggio, ah, vedi, si fa in famiglia. No, no, no. Se no, c'hai no, il padre orefice, è ovvio che poi certo, cercherà di fare... Certo, il padre avvocato, molti sono... Avvocati o notai. Figlio dell'avvocato, il figlio esatto, del notaio, insomma. Però l'abbiamo spiegato già noi, lungamente. Noi siamo degli... per metà artisti, per metà, per 30, no vabbè, per metà, ma diciamo, no, per metà, montiamoci la testa, per metà siamo artigiani, questo è un lavoro artigianale che dice si impara, esatto, si impara a fare questo lavoro. È come quando lavoro si intaglia un diamante, piccoli, perché esatto, le persone magari non si rendono conto, un film dura un'ora e mezza, un'ora e quaranta, certo, e tu ci, il tuo personaggio, se unisci tutte le frasi, parlerà 20 minuti se è protagonista. Certo, certo. E noi ci stiamo sopra anche 20 ore, 25 ore. Certo. Non tutte di seguito, 9 ore al giorno sono. Per cui pensate che il lavoro di Cesello c'è intorno a un lavoro. Non riusciamo a beccare Pezzulli, forse starà su un pattino chiedendo a tutti ti sì, ti fidi, oppure sta pilotando un aereo. Un aereo? Sì, ma sì, dai, sì, questa è una cosa bellissima. Il nostro macchetto abbiamo sputtanato in diretta. E beh, ma era giusto. Ci sono centinaia giusto, di migliaia giusto, di persone che ci stanno seguendo. L'avevo sputtanato in realtà. Ma Pezzulli anche sta in diretta, su un'altra radio. DJ. Esatto, sta su un'altra radio. Molto importante, il rischio. E che faccia altrettanto con noi. Ma lo farà in maniera amichevole. Lo farai. Perché noi... altrimenti esce fuori il mio ridoppiaggio del Pasino. Esatto. E allora le cose cambieranno. Fare. Esatto, beh, qualche disgraziato l'abbiamo doppiato. Tu sei stato anche un grande Simba. Ah, è vero. Adesso stiamo ridoppiando, ci sono i telefilm dove c'è il figlio di Simba. Tu sei Simba grande, ovviamente. Simba grande, Simbino. Certo. Beh, iniziava da ragazzo. Esatto. Il grande era il grande Vittorio Gassman. Vittorio Gassman. Cioè, quel momento... Mufasa. Nella natura, che devo dire, nonostante Gassman non era un doppiatore. Scar era Tullio Solenghi. Tullio Solenghi, bravissimo. Faceva il cattivo. Tullio, poi, come Massimo Lopez, sono più abituato al doppiaggio. Ma la voce evocativa lì... Era Vittorio nelle Gassman, stelle di sì, Gassman è meravigliosa. Ce l'abbiamo un pezzettino... Era del 93. Nel 93. 94. Il Re Leone, sentiamocelo. Come sono contento di vederti. Ehi, volete spiegarmi che succede? Che cosa ci fai qui? Come sarebbe che cosa ci faccio qui? Che cosa ci fai tu qui? Che sta succedendo qui? Timon, questa è Nala, è la mia migliore amica. Amica? Sì! Ehi, Pumba, vieni qui! Nala, questo è Pumba. Pumba, Nala. Piacere di conoscerti. Il piacere è tutto. Un pupo. Un Pumba. Beh, 24 anni fa. 22, no, 24. 94, sì. No, è bellissimo quello bellissimo. Lì. No, che poi la gente ne sa molto più di noi. Ogni tanto ricordano soprattutto i film giapponesi, le anime, eccetera. Io adesso, allora... quando vado... ci sono queste cose dei fan, soprattutto per una serie che è Il Trono di Spade, no? Ah, io doppio tu... Jamie Lannister, che è stato un cattivissimo. Adesso il suo personaggio è un po' cambiato. Un po'... È vero che sei Jamie Lannister. Che bellissimo. Me quando mi ha chiamato per fare la seconda voce, perché è stato male Massimo Lodolo. È vero. Mi sono rovinata la serie, no? Non l'hai vista, più... No. Perché non mi piace adesso, vabbè, adesso è la settima, dobbiamo aprire, esatto, io non ci sono perché ancora non mi hanno chiamato, per cui... E quando andiamo ci sono questi fan chiaramente che sanno più cose, mi dicono tu hai doppiato che ne so, Ataru Moroboshi, roba di 1979 Ataru, e io dico sì no, perché noi abbiamo doppiato tanto e non ce ne siamo neanche resi conto, esatto. Molte volte, quindi... che poi basta andare a cercare quello che uno fa sui siti specializzati, adesso... ti rendi conto c'è tutto, sì, c'è tutto. Ma è difficile ricordarselo, lei, davvero, lei ha doppiato il vento del ricordo, ma non mi ricordo, sto vento è passato così forte che ha cancellato ogni tipologia di ricordo, ma sono tanti, perché sì, tu hai mai contato quanti no, film hai fatto? A volte lo dimentico, certo. Circa più di 300 sicuramente, bah, di protagonisti. Non saprei dare un numero, sinceramente. Anche perché molto altro ricordo, dico, ah, ma sì, ho doppiato. Io ho veramente aneddoti quasi con tutti. Quando sono venuto all'ultimo premio con te, c'era la signora Monica Guerritore, bellissima, sì, bravissima attrice, e mi sono ricordato che con lei doppia un film bellissimo che era Fotografando Patrizia, film non so, film bellissimo o meno, no, film, sì, italiano, film italiano di Salvatore Samperi. Io doppiavo tutto da solo in seconda colonna, così, e arrivò lei e dice io voglio doppiare con Riccardo, io sono mezzo svenuto perché lei era è bella ancora, sì, era bellissima, ragione, insomma, bellissima. Per cui hai doppiato anche film italiani. Quindi, beh sì, perché c'era a volte, sì, c'era la famosa cosa del voce volto all'epoca, si doppiavano poco, quello, sì, era un attore che parlava in bolognese, così non si poteva, ci doveva per forza doppiare perché non era che è successo? Allora, Pezzulli ci dicono dalla redazione che è sulla neve. Ah, attenzione, disgraziato. Dai, è sulla neve e ci saluta. Ma speriamo che non prenda nessuna da dietro, nel senso buono e di gatti, esatto, fidi, sì, di me, buttate sotto, esatto, un burrone. Sì. Vieni, tanto lo so che fidi di me. La pagheremo sta cosa, sì, Riccardo. Pezzulli è vendicativo. Sì, lo sì. So, però è colpa mia, è tutta colpa mia. No, però vabbè, io sono il conduttore, avrei dovuto vabbè, frenarti. Vabbè, tu ti sei no, dissociato. No, io ho riso molto invece, mi prendo le mie responsabilità, però so dov'è la radio DJ che frequenta, esatto, sulla Colombo. Lì si vendicherà. Si vendicherà, ma noi aspettiamo sotto. Esatto, cui, beh, certo. Sai, cioè io so dov'è. Per cui, caro Pezzulli, noi ci salutiamo un attimo, torniamo, se non viene a vendicarsi adesso, torniamo fra pochissimo, Voice Anatomy e Riccardo Rossi, a tra poco. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli, dentro la notizia di Mario Secchi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schifani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Ascoltaci anche in digital radio. Voice Anatomy. Eccoci puntuali. Voice Anatomy, Riccardo Rossi, che sta diventando una bellissima chiacchierata con un amico. Un po' meno tecnica, però divertente, anche un po' gossipata. Certo, un po' goliardica. Qui arrivano dei messaggi tanti, di complimenti, eccetera. Allora, ricordo Riccardo nella voce di Peter in Heidi. Petar, disgraziato. Petar. Oddio, Petar. Ma che sei matto, gli appassionati ci linciano. E c'ho picco, che sono matto. Ma guarda che ci linciano gli appassionati. Lo so. Petar. In Heidi. La signorina Rottenmeier. I 40 anni come me sono cresciuti a pane Heidi. Heidi, esatto. Chi era? La Guadagno. E Francesca Guadagno. Sì, che in quel tempo faceva piangere il telefono con Domenico Modugno, la bambina di piangere il telefono. Sì, ciao, che sei? Ciao, come stai? Esatto, signore dell'altra volta. Esatto, quella è la canzone che strappò il cuore e l'anima a un sacco di quarantenne. Esatto, adesso. Esatto. Allora, ce abbiamo un pezzo di Heidi noi? E sentiamocelo questo peta. Ha del sale sul palmo della mano, alle capre piace molto il sale. Dammene un po' anche a me. Una manciata di sale per te, Bianchina. Che c'è, generale? Non vuoi continuare il tuo cammino con le tue capre? Sì, come vuole, sì. Torno domattina, Agli. Forse domani posso venire con te. Domani parto molto presto, perciò abbiamo tutta la giornata. Arrivederci. Beh, è uguale. La stessa voce. Lo lascerei io la sigla per capire a che livelli siamo. Oddio, beh, ma quelle sono cose storiche. Bellissimo, importanti. Sì. È stato, credo, il primo cartone di Miyazaki, no? Che ha avuto un grande produzione successo. Sì, la produzione del studio Ghibli. Sì, il primo che è andato in onda, andava sulla Rai quando c'erano solo due canali, quindi eravamo ascoltatissimi. Vabbè, ma quel periodo, però erano cose anche vere e importanti, non è che uno ha ascoltato perché c'era solo quello. Grandi cose sociali. Ma qui apriamo un link enorme su varietà e su tante altre cose. Ciao, magnifica coppia di doppiatori. Vabbè, questo mi mette anche a me vicino a te. Certo. A proposito di cambiare voci, come fate a scegliervi l'attore da doppiare? Magari non ce lo scegliamo. No. Ci sono film che fatica a guardare perché la voce doppiata non ci azzecca nulla con l'attore. Come funziona l'abbinamento? Sono curiosissima. Baci, grazie, Chiara da Mestre. Come funziona, come, Riccardo? Ma noi siamo una coppia di doppiatori, Sì, però noi siamo, come fanno a sceglierlo? Stati coppia su Eastern Promises. Ah sì, la promessa dell'assassino. Ehi, Kirill, vieni qui. Tu eri il francese. Sì. Marito della Bellucci, Vincent Cassel. Io ero il povero Viggo Mortensen. Come povero? No, povero nel senso che mo è sparito, non si capisce perché non fa più film questo. Certo. Cioè li fa, ma li fa in giro per il mondo e a me tocca aspettare che arriva qui. È vero. Lì eravamo sì in Russia e avevamo il mitico Aragorn. Figlio di Arathorn, invece so Pinuccio Fiodarmandino. Senti come cambiano le cose nella vita. Cosa ci fanno un uomo, un elfo e un nano nelle terre del Mark? Non lo so. E tu eri Aragorn, scusa. Non mi ricordo che ci facevano. So solo che verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. E invece, come fa? Succede che il direttore di doppiaggio vede il film insieme alle responsabili delle edizioni, della Disney, piuttosto della Warner, Columbia, eccetera, e se quell'attore è già, come magari un attore che già segue Riccardo, ovviamente di default viene dato al doppiatore. Altrimenti, se magari il film è particolare, si fanno dei provini, gli americani oppure i francesi chiedono dei provini, certo. E si mandano 3 provini per ogni personaggio, certo. E sono scelti oltreoceano. E devo dire, lo dico sempre, è una frase che mi caratterizza nel mondo del doppiaggio: se perdi un provino tu, lo vince un altro bravo. Sì, per cui non si può barare, il doppiaggio è difficile barare. No, no. E allora lì magari se perdi un personaggio che hai fatto spesso ti può dispiacere. Però, ripeto, cade sempre in buone mani e allora si tratta solo di avere pazienza per riprenderlo. Spero che abbiamo chiarito le tue grandi curiosità, carissimo. E allora parlavamo di un altro grande, che è Adam Sandler, anche il nostro tecnico del suono, tutti appassionati di voci e di doppiaggio. Adam Sandler l'ha fatto sempre tu. Sì, quasi sempre. Sì, sempre. Ho doppiato tantissimi film. Qual è quello che ti chiedono più per la strada da fare? Beh, quello che mi chiedono più è Zoan, assolutamente. Il parrucchiere. Ti faccio Pino, ti faccio dei set a Ma mobile. Sempre me! Voglio fare... Ma c'è, stai te qui! Ho capito, ma Pitti, non me... Voglio fare Isabella, ti faccio dei set a morbide, ti prendo... A fare appiccico con tua moglie, prendo la sprizzolona. Perché il famoso Jeff Davidson mi spiegava che gli israeliani parlano con la R, con la R moscia, dice quasi una cosa francese. Sì. E allora lui mi dava, chiaramente noi l'abbiamo fatto così per gioco, non è un vero... Loro lo fanno in quel modo, se quello è russo-americano lo facciamo in italiano-russo, ovviamente. Abbiamo fatto una riproduzione, anche perché noi abbiamo imitato anche lui che faceva una cosa un po' una macchietta. Perché noi nel doppiaggio cerchiamo un po', quello che cerchiamo è la conformità di fare... come hanno fatto... Certo, di dargli loro, l'hanno già fatto loro, devi dargli almeno un minimo l'adattamento, poi fa il resto, insomma, dipende da un buon adattamento a fare un buon doppiaggio, come una bella traduzione di un libro, è l'adattamento di un libro straniero. Non ce l'abbiamo noi, Zoan? Ce l'abbiamo Zoan? Ah! Ce l'abbiamo danzante di cosa? Big Daddy? Vabbè, mettiamo una danzante, vediamo, ascoltiamoci la danzante. Perché non mi hai detto che eri un agente segreto? Preferisco operatore di intelligence. Ma non potevo dirtelo prima di conoscerti bene. Beh, ti posso telefonare quando arrivo? Puoi chiamarmi, ma sarò in Perù. Ahi, l'ho detto un po' troppo forte. Avanti è 1.87, codice blu. Abbiamo il lupo che dorme la notte. Sta infilando il braccio destro nel cassetto e tira fuori il barattolo dei biscotti. Via libera. Blin, blan, wala, wila, blan, bim, bon, ricevuto z... Beh, magari quando hai finito il lavoro in Perù. Non credo sia proponibile, Lisa. Linda. Lo so, ti ho cambiato nome per proteggerti. Dobbiamo andare per le nostre strade adesso. Beh, arrivederci. Ricevuto sgombero! Questo è il primo film che ho doppiato di Adam Sandler. La prima volta, e poi da questo ne ho doppiati tantissimi. Tutti. Molto, stai proprio perfetto. Ciao, mi dici, domanda: come fa a parlare di anime senza citare Romano Malaspina? Ma noi non è che non citiamo Romano Malaspina, verrà ospite e parlerà lui di se stesso. Il grande Goldrake. Dovremmo nominarli tantissimi, ma si stanno alternando in maniera molto democratica all'interno. Senti, io facciamo sempre leggere qualcosa di particolare a un attore doppiatore con la sua voce evocativa, magari qualcosa che non c'entri niente con quello che sta leggendo, con la voce che sta usando, proprio per divertirci un po'. E noi abbiamo poi scelto... Poi magari indovinano loro. Sì, vabbè, qui... Provate come sempre a indovinare. Partiamo con una bella musica come di sottofondo. Con Adam Sandler. Vai tu, tipo, più romantica è, più sensuale, non so, divertiti, però lenta, bella, rotonda, vai. Il grillo disse un giorno alla formica: oddio, Johnny il Depp. Pane per l'inverno tu ce l'hai. È Ben Affleck questo. Perché potresti sempre, e per il vino aspetta la vendemmia e ce l'avrai, ho detto una volta. Mi sembra di vedere mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù. Voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, all'ombra di ginestre e di lilla, al tuo paese, c'è chi ti vuol bene perché sogni le donne di città. Mi pare di vedere mia sorella che aveva un fidanzato di Cantù. Voleva averne uno anche in Cina e il fidanzato adesso non l'ha più. Pure quello. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene, il campanello suonerà. Beh. Ho preso due toppe, una cosa sola. Beh, credo che anche l'amico Orietta sarebbe contento. Se ci ha sentito, ci cita per danni. Secondo me chiama Osvaldo. Sì, Osvaldo, ci fa causa. Lei, Pezzulli. Oggi, Osvaldo, oggi veramente... Amore, chiamo un avvocato, subito. Rischiamo veramente pesante. Però, insomma, è facile da capire di che canzone si tratta. Le altre volte erano delle spiegazioni di qualcosa di particolare. Giorgio Tò, quello che ha la voce quasi sussurrata, spesso doppia il cattivo della storia. Mi è un contributo. Che cos'è? Oddio, no, ce l'ha con me quello, oddio. No, è bello quando ce l'hanno. Non si capisce bene. Giorgio Tò, non capisco neanche il tuo nome. Se mi spieghi che è la storia mia? Non lo so. Ogni tanto, io poi cito sempre, ci arrivano tantissimi, veramente messaggi molto belli, anche perché la trasmissione oggettivamente è interessante, alterna un gioco con i doppiatori, fantasioso, evocativo, per poi avere come oggi fra un po' un ipnotista straordinario, con la voce ovviamente racconta altre cose molto interessanti, poi avremo un attore, un'attrice che si alterna a questi microfoni, per cui... E ci sta ogni tanto qualche bello, c'è uno addirittura che dice: come sempre non riesce a piacermi sta trasmissione, ma non posso fare a meno di ascoltarla. Sì, vabbè. Un altro invece che io adoro, dalla prima puntata che la dico, dice: finalmente è arrivata la domenica e posso pulire casa, visto che il mio aspirapolvere ha la tua stessa voce, Pino. Ah sì? È bellissimo, è bellissimo. Beh, chiaramente internet dà voce a tutti, ed è giusto che sia così. Ma certe volte magari utilizzato in maniera superficiale, altre accetti delle critiche, anche perché è un pubblico molto attento e ti corregge, non solo a livello grammaticale, ma anche come termini, arrivano Radio 24... È veramente ascoltata ad altissimi livelli, per cui devo stare attentissimo. Ma molto di più. Io voglio sentire un'altra. Cioè, un Fast and Furious ce l'abbiamo, vero? Abbiamo il grande Paul Walker con il quale abbiamo cominciato. Vale la pena, giusto, ricordarlo. E allora dai. È un giochetto schifoso per confonderti le idee. Letty è morta, Dom. Io devo esserne sicuro. Allora vengo con te. Avevi detto che abbandonavi quella vita. Abbiamo detto che l'abbandonavamo. Ha ragione, siamo una famiglia. Se abbiamo un problema lo affrontiamo uniti. Ed ecco, eravate Tu e Massimo Corvo su Vin Diesel. Cannone, cannone Massimo Corvo. Veramente. Massimo Corvo ha detto brontolo. Un orco. Con quella voce. Buono, bellissima. Abbiamo già due denunce. Dai, vero, la terza sì. No. Certo, buoni. Però bellissima voce Massimo Corvo. Voce bellissima. Bravissimo attore, tutto. Bene, abbiamo recuperato. Che facciamo? No, è che... Non si può dire niente. Niente. Dai, non siamo perfetti così. Ma anche Matt Damon tu lo segui spesso. Sì, qualche volta sì, ho doppiato... un film in particolare mi piace ricordare, che è Hereafter, film di Clint Eastwood, che è per me un grandissimo regista. Lo sta dimostrando in tantissime occasioni. Un altro anche di Clint Eastwood che faceva Matt Damon, è Invictus. Quella sul Sudafrica, con tanto di Mandela. Mandela, col grandissimo Ocean Renato 12. Mori. Un bacio a Renato, che è uno dei nostri grandi maestri, che non c'è più. Ocean 12 pure. Ocean 12, sì, 13, tutti gli Ocean, sì. Abbiamo sì, un Ocean 12? E vai, sparalo. Ehi, posso chiederti una cosa? Hai notato se mi devi chiedere se puoi chiedermi una cosa, dammi il tempo di rispondere. Perché se è una domanda retorica, allora la risposta è ovvia, sì. Ok, posso chiederti? Sì. Grazie. Hai mai notato che Tess è identica? Questo non lo chiedere, mai. Sul serio. A nessuno, soprattutto a lei. Scusa, perché no? Senti, non mi è mai piaciuto fare il misterioso. Ma non posso parlarne, non posso nemmeno dire perché. Arrivano tanti messaggi. Finché la barca va, Orietta Berti. Poi se io insegno, e questa è una cosa molto bella, ci tengo a dirla a proposito di cartoni animati e scambi di corpo voce, l'ha doppiato Father Knight in The Dark Side of the Sun. Sì, è un documentario su una malattia rara, bellissimo, fatto dal figlio del grande Interman, l'attore Carlo Interman. E sono io che ho animato interamente io, perché c'è anche questo cartone animato molto interessante. Sono un fan di me stesso, ma devo dire che è riuscito a farmi diventare anche un fan di lei stesso. Grazie per l'impegno e la generosità nel sopportare quel progetto che fu un bagno di sangue. Ciao a tutti voi stessi da Fabio. Certo. Noi salutiamo te, perché era un progetto bellissimo, ma si sa, certe volte qualche progetto prende strane strade, però era molto interessante. Una malattia rara. Sono persone che non possono prendere la luce, come il vampiro, certo. Cioè, prende i tumori, prende il tumore a tutta la pelle e muori. Ah. Per cui hanno trovato questa idea meravigliosa di costruire un villaggio per ospitare queste persone, dove vivono di notte, vanno a scuola di notte, sono insieme nei parchi giochi di notte e il giorno ovviamente sono coperti. Sono chiusi dentro casa. Sì, una sorta veramente sembra terribile, una storia terrificante, ma trattato con un'eleganza e una leggerezza che era veramente affascinante. E questo documentario era abbinato a questa metafora in cartoni animati, disegnata magistralmente. Sembrava all'inizio, io ho detto, ma è di Miyazaki. Certo. E invece, ringraziando il cielo, siamo bravi tanto quanto, certo, in Italia, certo, siamo riusciti, certo, a fare una... Che impegni hai? Non adesso, ovviamente, no. Domenicale, che stai doppiando adesso? Allora, adesso abbiamo finito di doppiare Batman vs Superman, Dawn of Justice, l'alba della giustizia, che ci ha impegnato moltissimo. Al cinema c'è un film che abbiamo doppiato insieme, che è Spotlight. Spotlight è bellissimo, sì, bellissimo. Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, che è un tema molto attuale, scottante, insomma, sì, difficile. Pedofilia all'interno di però bello, candidato a tantissimi della diocesi di Boston, molto dura, è vero, poi è una storia vera, sì, una storia vera. E poi sì, tante cose, noi siamo impegnati su tante cose, per ma fortuna teatro, ma teatro non niente, non aspetto va. No, sì, beh, certo, noi il mestiere del doppiatore è un po' un mestiere che puoi stare dietro le quinte, invece a teatro ti ci devi mettere davanti, insomma è un po' diverso. Devi sempre recitare, però insomma è diverso. Caro Riccardo Rossi, siamo arrivati alla conclusione del nostro incontro. Accidenti. Aspettando le telefonate degli avvocati, delle persone che abbiamo citato, ti terrò informato. Le citazioni in tutti i sensi ci faranno, aspettiamoci qualsiasi tipo. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a te Pino. Grazie a te Riccardo. E noi invece andiamo avanti con Voice Anatomy, tra poco l'ospite che vi raccontavo, questo grande professore, e ci parlerà di ipnotismo, di voce e quant'altro. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccomi, stavo salutando gentilmente con un grande abbraccio Riccardo Rossi, lo faccio anche a nome vostro, arrivano altri messaggi ovviamente. Due grandi amici, Proto e Simbad, anche voi ci ricordate cose che abbiamo fatto e magari ci siamo dimenticati. Invece adesso, come sempre accade in questa trasmissione, abbiamo un ritorno, un felice ritorno, perché poi le persone più interessanti cerchiamo sempre di riportarle sedute davanti a questi microfoni di Radio 24, e lui è Luciano Masi, ve lo ricordo, il dottor Luciano Masi è uno psicologo e psicoterapeuta ed esercita la sua attività professionale a Roma, è direttore didattico dell'Istituto di Logoterapia Italiano, Lili, di Cagliari, è didatta dell'ECAT, questo è difficilissimo perché è in inglese, dillo tu Luciano, European Committee for the Analytical Advanced Autogeny Training. Ok, benissimo. Ho evitato di fare le mie brutte figure in un'altra lingua, visto che faccio anche io il doppiatore. Neanche io lo conosco. Ma nessuno ha il coraggio però di riprenderti, io sei professore, nessuno ha il coraggio di riprenderti. Nessun dubbio. E allora, didatta, docente di diverse scuole di psicoterapia e counseling, ha pubblicato varie opere di saggistica in materia di psicoterapia, tra cui analisi tematica viaggio nel mondo ipnotico, iponoico. Ah, scusami, iponoico, ipnotico, perché ce l'ho di iponoico, che è diverso da ipnotico, ovviamente. Certo. Iponus, da al poco, di sotto del pensiero. Beh, quello che io ho. Al di sotto del pensiero certe volte, l'Eur di Roma, ipnositerapia immaginativa, insomma tantissime cose. Professor Masi, mi faccia una breve descrizione proprio delle caratteristiche e delle potenzialità della transipnotica per chi non avesse ascoltato la precedente puntata, professore. Allora, la transipnotica è in sintesi uno stato dissociativo in cui la mente cosciente osserva serenamente, passivamente perlomeno, le sensazioni corporee, mentre una mente inconscia, chiamiamolo un io corporeo, ha la capacità di collegarsi con le funzioni somatiche e psichiche profonde, ovviamente per modificarle. Certo. Quando si è in questo stato di commutazione si possono lanciare dei messaggi sedativi, distensivi, modificativi a queste strutture corporee o alle funzioni comunque psicosomatiche e modificarle. Se fossero messaggi distruttivi, ecco, non accadrebbe assolutamente niente. Ah, e questa cosa mi sono sempre domandato, esatto, cioè l'ipnosi perché, creare... No. Non è possibile. Dici, ok, adesso tu sei le mie mani, tu ti alzi, dai una sediata in faccia a quello che sta nell'altra stanza. Non è possibile. La psiche umana frena. Non è possibile. Potrebbe essere però preso in giro. Dice, prendi questa sedia di carta e dalla in testa. Ah, perché riesce per sempre scherzo, una veglia, per scherzo. Una veglia, c'è una censura nel cervello, c'è una commissione. Nel cervello c'è una censura. C'è una password che non è concessa quando l'intenzione è distruttiva. Non ce l'ha neanche Google, non ce l'ha nessuno. Tutti quanti i siti, non ce l'ha nessuno. C'è un margine libero, un margine di protezione che non si può superare. E neanche dovresti ristrutturare proprio un cervello, questa è fantapsichiatria, non ci si riesce. Entriamo proprio in merito della nostra propria tematica, professore. Sì. Ossia la voce in tutte le sue forme. Mi può dire, la voce può subire alterazioni per fatti traumatici e c'è la possibilità di superarle con induzioni ipnotiche? Sì, come dicemmo già l'altra volta, lo riepilogo brevemente. Sì, sì. La voce si modifica naturalmente durante la trance, perché la trance è comunque anche uno stato regressivo, quindi recupera modalità antiche della voce. Lo stesso psicologo o ipnologo deve alterare la sua voce, modificarla, usare un tono basso, onde lunghe, suoni a basse frequenze. Suona a basse frequenze. 50 dB proprio. Per poter indurre la trance. Il paziente in trance la modifica naturalmente. Delle volte può diventare bambino, volte ha una voce infantile, altre volte può addirittura veicolare delle voci antiche che ha dentro di sé, eccetera, perfino le voci degli avi, questo nella trance profonda e regressiva, perché delle volte, perché certi problemi possono dipendere geneticamente, non direi geneticamente quanto come informazione di trasmissione, certo, trasmissione di emozioni che vengono captate dal cervello emotivo. Ovviamente con la trance si può intervenire anche per le modificazioni, per le alterazioni della voce che siano disfunzionali. Per esempio, se delle persone hanno avuto dei traumi, prendiamo delle violenze o altri traumi del genere, possono esserci delle alterazioni della voce che se le porteranno avanti per parecchio tempo, a meno che non si intervenga. Io ho visto diversi casi di afonie traumatiche, ricordo un caso drammatico in cui veramente per diversi anni questa ragazza che aveva avuto violenza era rimasta afona. Rimaneva, le corde vocali non vibravano più. Non vibravano più. E allora in quel caso abbiamo dovuto far rivivere. E non serve il cortisone o non serve quelle... aveva provato di tutto. Esatto, dal punto di vista chimico e medico non si poteva fare niente. Bisogna intervenire drasticamente nel subconscio. Sì, allora si fece rivivere il trauma, lei lanciò un grido. Sì, si mise in regressione ipnotica, rivivere il trauma, poi ci vuole però... Cioè, rivissuto, scusami se mi soffermo su questa cosa, non è rischioso far rivivere quel dramma? No, devi... Se è in stato di commutazione, no. Puoi farlo rivivere tranquillamente, perché poi c'è la conduzione esterna. C'è uno schema, certo. L'individuo è protetto, cioè un conduttore, certo. E può intervenire in qualsiasi momento che dovesse... esserci qualche rischio, ma di solito la catarsi è sempre liberatoria. Ovviamente poi bisogna partire da lì per riprendere in mano tutta la situazione. Esatto, dopo l'urlo, perché ti ha rimesso la voce. Dopo l'urlo ha ripreso un po' la voce, poi c'è stata una lenta rieducazione, lenta nel senso di poche sedute, 4-5 sedute, lenta rieducazione del diaframma, delle corde vocali e della cavità. Ha fatto ginnastica vocale in trance. Ginnastica vocale in trance. Cioè, praticamente è continuata questa trance anche nelle altre sedute, ovviamente ipnotiche. Sì, perché... sempre, però non così profonda come l'altra, solamente con la finalità di rieducare gli organi fonetici. E che tipo di passeggiata si fa da quel punto di vista? Nel senso, prima c'è stata ha ricreato quella violenza molto forte per l'urlo, che è stato fondamentale. Da lì in poi si ripercorre ancora quella violenza o si va da altre parti? No, dopo quella viene curiosità di un profano, ovviamente. Quella viene una volta sola, dopodiché c'è la necessità di rieducare le funzioni alterate e allora si fa con messaggi sedativi, messaggi invece tonicizzanti a seconda dei casi, eccetera. Che bella, questa ginnastica dell'anima. Questa ginnastica sì, mentale che si accoppia a quella tradizionale, a quella fisiologica, fonetica, no? Per cui è una cosa più rapida questo fatto dell'ipnosi, che magari molta gente non la conosce o la conosce come fenomeno cinematografico di persone che vengono indotte a fare qualcosa che non devono fare o chissà cosa, è invece un percorso psichico molto importante. È un percorso terapeutico importante. Quando è che si consiglia un percorso di questo tipo rispetto invece a uno psicologo? Leviamolo lo psichiatra, ovviamente che lì stiamo parlando di medicine, eccetera, eccetera, ma... Quando è che si consiglia un percorso del genere? Cioè, psicologico, uno psicologo parlandoci oppure arrivare... Quando ci sono dei traumi e quando ci sono dei sintomi psicosomatici forti, la cui sola comprensione non basterebbe. Non basta il dialogo fra i due. Uno può benissimo analizzare tutti i particolari, risalire alla storia antica, ma da sola non basta. Può portare una certa tranquillità, ma per intervenire sul sintomo... che ormai ha assunto una sua autonomia, si è radicato, vero. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa di più profondo. Ora questo io corporeo è capace di collegarsi non in modo magico, ma attraverso l'emissione. Sì, non è che ti metti il cappello con le stelline in testa. Con l'ipnosi, come dicevo, si può fare curare veramente qualsiasi sintomo praticamente. Certo. Non, se non totalmente, almeno portare un certo beneficio, quindi non so, riscaldare il pancreas, riscaldare il pancreas, farlo lavorare meglio, farlo lavorare meglio. Per cui lavora benissimo anche sugli organi interni. Sugli organi interni, per esempio, viene molto applicato sulla sterilità delle donne, perché le ovaie si rimettono in moto. Perché tante volte sono cose psicosomatiche, si utilizza sempre il termine sei nervoso, sei psicosomatico. Certo. Molta gente non rimane incinta, ma non hanno problemi, dopodiché magari è capitato a una mia amica di adottare un figlio e dopo un minuto rimanere incinta. Oppure sui disturbi sessuali, oggi... Non mi guardi, professore, oggi così. Oggi così fiorenti. Professore, fiorenti. Oggi è una giornata così. È così. E giustamente ci sono io, ci stiamo guardando negli occhi. Sì, perché... Ha parlato con mia moglie, ho capito. Vabbè. Ha preso degli appuntamenti a mia insaputa, professore. No, ma si può fare moltissimo. Ecco, questi problemi erettili è un problema... No, ma non solo maschili, ma anche femminili. Perché sa, le donne simulano, naturalmente possono nascondere. Noi no. Noi no. Noi no. Noi no. Però ce l'hanno anche loro e quindi si può intervenire, per esempio casi di vaginismo molto duri a essere risolti, si può intervenire. Se non è un problema prettamente medico, cioè patologico, oppure proprio sì, anche lì si può aiutare, può comunque essere. Può aiutare la chimica, nel senso la medicina più... Io sono per una collaborazione tra la medicina tradizionale e l'intervento mentale. L'omeopatia e l'allopatia, insomma, allopatico e omeopatico insieme, per cui possono collaborare. Un'altra applicazione può essere sulla balbuzia, ad esempio. Ecco, la balbuzia è molto diffusa, anche se il fenomeno è complesso, perché intervengono degli aspetti anche neurologici. Però, ecco, per esempio... coloro che hanno la sfortuna di avere questo disturbo devono imparare, per esempio, a rilassare la mandibola, la mascella inferiore cosiddetta. Quando, esatto. Sempre, cioè ad avere un rapporto diverso con la mandibola, rilassare i masseteri in modo tale che la considerino come un corpo pendulo. Ecco, ma se dipendesse invece da problemi traumatici, questo taglio allora da si deve, timidezza, di solito si fanno tutte e due. Sì, tutte e due le applicazioni, cioè si va a far rivivere il trauma anche lì e poi si rieduca tutti gli organi fonetici, eccetera. Bene, professore, il primo blocco è andato, ma è molto interessante. Io sono rapito veramente come un bambino di fronte a queste cose. Immagino anche le persone che ci stanno ascoltando, che hanno richiesto ancora una volta, a parte noi, la sua presenza, perché è un mondo affascinante. La voce è anche questo, la voce ti aiuta a guarire se utilizzata nel modo giusto, e qui abbiamo il professor Luciano Masi con noi. E a proposito di questo, restate con noi, tra pochissimo Voice Anatomy continua. Voice Anatomy. Bentornati signori e Voice Anatomy, 15:32 primi e 22 secondi in diretta con il professor Luciano Masi. È inutile che racconto quante cose fa, stiamo parlando di ipnosi, di ipnoterapia, di tante cose, e molti messaggi arrivano, siete fantastici, questa trasmissione, applauso particolare, eccetera, grazie Anna. Entro la fine della stagione pensi di poter portare in trasmissione anche solo uno fra questi tre grandi, Roberto Pecini, c'è stata la prima puntata, pensate, ma torneranno come Dario Penne, Gioia Saltarelli, verranno tutti ovviamente, e un'altra persona mi parla, altri complimenti eccetera. Nei film però succede tutto quando si parla di ipnosi, succede tutto, la password che blocca certe azioni, e come ha detto il professore non funziona, esigenze cinematografiche ovviamente. E il professore mi stava raccontando durante questa pausa l'importanza per un attore eccetera, io ho detto non me lo dire adesso professore, raccontacelo a tutti noi come una bella favola, questa... e mi dicevi? Noi siamo... abituati a utilizzare l'ipnosi quando c'è qualcosa che non va, insomma qualcosa di traumatico, qualcosa di profondo. Ma per quanto riguarda la voce, il tema della trasmissione, la voce, si può intervenire anche sulla voce normale, sulla voce buona, sulla voce che però potrebbe avere la possibilità di svilupparsi, di ancora, migliorarsi ancora. Quindi, c'è da dire intanto che noi non abbiamo una sola voce, ce ne abbiamo diverse dentro di noi, è esperienza comune, no? A seconda delle situazioni, degli stati d'animo. Quando uno è innamorato non utilizza la voce che utilizza in ufficio, certo, no? Quando è arrabbiato. E che sarebbe fantastico, professore? Potrebbe anche... Sarebbe un'idea meravigliosa, porterebbe gli altri a lavorare meglio, soprattutto se sei il capo ufficio. Usare una voce da innamorato col capo ufficio questo non è il caso, diventerebbe una situazione che porterebbe a cose spaccianti. Io per esempio ho visto in psicoterapia, ma in maniera normale, senza nessun intervento, che le pazienti, perché sono più che altro le donne che vengono in psicoterapia, che hanno il coraggio di mettersi in discussione. Ecco, l'uomo non è che non viene perché sta meglio. No, per carità, sta pure peggio, però è orgoglioso e viene di meno. Sono pochi gli uomini che vengono. Ho visto delle pazienti che hanno modificato la loro voce durante la psicoterapia in maniera spontanea, naturale. Magari all'inizio avevano una voce metallica, una voce da fonderia, e poi dopo si è trasformato in una voce da usignolo, da sirena. E si mantiene dopo la risveglia, all'uscita della trance? Diventa un repertorio che può utilizzare nei momenti di grazia, ma loro stesse lo affermano, dice: le mie amiche non mi riconoscono più perché parlo in modo diverso. E questo infatti è una cosa importante. Quando io lavoro con la voce, faccio lavorare con la voce, nessuno accetta la propria voce, perché esatto, non sono abituati a risentirsi le persone, allora esatto, non la amano profondamente. Ovviamente esatto, un attore può ricreare quelle emozioni che tu dici e in maniera tecnica, perché conoscendo il diaframma eccetera eccetera. Veniamo agli attori. Gli attori ovviamente sono degli esperti, sono guidati da esperti, da tecnici, sia medici sia educatori del certo, linguaggio eccetera, e fanno tutto alla perfezione. Però non può essere completo questo intervento. Perché? Perché se ci sono delle tensioni nascoste nel diaframma, nelle corde vocali, che non dimentichiamo sono fibre muscolari, sì, nella cavità della bocca che dà la risonanza della esatto, voce eccetera eccetera. Pensiamo ad esempio a un urlo disperato che voleva dare un bambino a 3 anni e non poteva farlo perché il padre persecutore era lì minaccioso eccetera eccetera. Quello è rimasto dentro. Quelle tensioni sono là. E quindi se un domani quel ragazzino farà l'attore, potrà migliorare all'80%, ma non al 100%, se non si interviene su quelle tensioni sedimentate, nascoste negli organi, nascoste. Perché una persona cosiddetta normale, come posso giudicare me stesso, insomma, nel range naturale, insomma, può invece scoprire qualcosa nel passato che invece... E quindi allora, se accanto alle normali tecniche di rieducazione certo, fonetica, di potenziamento della voce, che si usano e che sono ottime, le migliori possibili, si aggiunge un intervento di sedazione sia del diaframma, certo, sia del rilassamento vocale, tutto un rilassamento profondo e un'induzione anche alla vibrazione successiva, al passaggio di aria, eccetera, eccetera, questo può potenziare ancora la voce. Lo dico perché l'ho visto, l'ho visto in atto. Ci sono stati degli attori, non venivano per il potenziamento, venivano perché avevano avuto la voce alterata in seguito a traume, certo, a traumi affettivi e altre cose di questo genere. E piano piano, attraverso l'ipnosi, riuscivano a recuperare la loro voce. In quella sede abbiamo fatto tentativi anche di quel genere, che loro hanno trovato molto molto utili per il loro lavoro. Ma la voce, proprio non mi stancherò mai di urlarlo in questa trasmissione, che è proprio l'elemento di comunicazione più importante che c'è al mondo. Non c'è corpo bello che tenga rispetto a una voce, ma non bella, una voce che sappia raccontare, che sappia provocare delle emozioni, anche la voce degli insegnanti. Io lo urlo, dovremmo studiarlo veramente a scuola. L'educazione vocale va insegnata a scuola. Il teatro va fatto fare, ma non tanto per il teatro stesso, è perché intanto disinibisce, crea l'insieme. Se una persona è timida, riesce a sbloccarsi di fronte alla platea. È una drammatizzazione, certo, e come tale promuove la catarsi. Quindi, quindi è terapeutico. È assolutamente terapeutico. Lei l'ha fatto, tu l'hai fatto, decidiamo del tu, Luciano. Beh, quando ero ragazzo, sì. Anche tu, sono stato un attore. Io faccio l'attore. Ero ragazzo alla parrocchia, l'ho fatto. Parrocchia, tutti abbiamo cominciato lì. Mi hanno chiamato anche recentemente a rappresentare una parte così. Beh, la faccia ce l'hai adesso. Siamo per radio. Mi hanno fatto fare Socrate. Beh, ce l'hai Socrate adesso. Socrate e i 7 vizi capitali. Quali eri dei 7? Eri solo Socrate o rappresentavi? Eri Socrate, eri super partes. Ero quello che interrogava i vizi, che li metteva, certo, li metteva le corde. Infatti, professore, se voi poteste vederlo, visto che siamo per radio e c'è la voce che comunque evoca un'immagine, ed è un bel signore che, con capelli bianchi giustificati, non i miei che sono ingiustificati, non perché non sia grande, ma mi sono venuto a 30 anni con un pizzetto, sempre ovviamente dello stesso colore di capelli. Pizzetto è professionale. Ce l'aveva Freud, ce l'abbiamo pure noi. Io ho doppiato Freud nel film Dangerous Mind, sì, e devo dire che ho fatto la prima brutta figura doppiando quel film, che è rimasta ovviamente interna, ma ci tengo a raccontarle le brutte figure, che scriveva una lettera a Jung, e io dissi: caro dottor Jung, quello che io le scrivo, il direttore della Piaggio ha fatto fino a quello è Neil Young, questo è Jung. Jung perché? Io leggo subito Young, immediatamente dice, vedo Pino che tedesco, sei, esatto, sei molto ferrato in, questa, in questo film, ti sei preparato molto bene, fortunatamente mi sono ripreso, lì potevamo correggerci, allora... Sì, è vero, e questo è l'aspetto che racconta anche... Ecco, se io dovessi far fare l'attore, scegliere uno psicoterapeuta, eccetera, o un dottore che mette sicurezza e tranquillità, sceglierei te. Perché il viso è la fisiologia, la fisicità, ce l'hai quella del buon nonno, del buon dottore. Beh, sei fondamentale, È un complimento perché io ho sei nipoti. Quindi. Sei nipoti. Io non ti chiedo quanti anni hai perché sei pimpante. Quanti anni hai che fai questa professione? Sono 40. Solo 40. 40. Apposta dico solo 40. Esattamente 40. Certo, e tu hai un sito dove le persone che stanno ovviamente ascoltandoci posso... per sapere dove sei, tanto il professore si chiama Luciano Masi. Basta che cliccano su Luciano Masi, psicoterapeuta, psicologo, psicoterapeuta, c'è tutto. Ormai c'è tutto. Siccome io mi diletto anche a scrivere libri, saggi. Sì, infatti ne ho letti solo 4-5 mila, ho evitato di leggerli lì, altri. E lì vedono tutto, insomma, quello per cui allora... possono benissimo avere gli estremi. Per assolutamente lui. Sì, ormai non si nasconde più niente in internet, no. Racconta tutto, certo te racconta pure il contrario di tutto, vabbè, lasciamo stare. È mai successo, dice Chiara, che una persona non riuscisse ad accettare la sua nuova voce dopo la terapia? No, perché avviene gradualmente. Certo, non è che all'improvviso, buongiorno professore, poi esce, buongiorno professore. No, avviene gradualmente, quello che invece delle volte non riescono a tollerare è un'invasione, l'invasione è una voce strana, l'invasione di un avo che improvvisamente, questo però è in trance regressiva, che certo. Improvvisamente viene ad occupare quella, la vivono come un'invasione, come una possessione. E certo, perché qui parla di trance e qui evoca la seduta spiritica, sembra, no? Non invece non è niente di non c'è questo. Demonio, niente genere, no. È una voce memorizzata di un antico avo che irrompe improvvisamente e che occupa un po' lo spazio mentale. Quella può spaventare, ma la rieducazione del linguaggio, la voce nuova che si acquista in psicoterapia, quella non solo, siccome è migliore della precedente, è più bella, è più... Ovviamente tu, Luciano, fai delle registrazioni precedenti per poi riuscire no, a... questo, oppure no, non per far non capire il cambiamento questo magari della voce. Se ne accorgono direttamente. Questo non l'ho mai fatto, ma visto la sensibilizzazione che ho avuto con questa trasmissione, potrò farlo in futuro. Può essere importante, perché sai, sì. Molti portano questi file di cambiamento, professori che operano chirurghi, che operano le corde vocali, o come l'amico Diego Cossu, che tornerà presto, che operando i transessuali per dare loro non solo un corpo da donna che c'avevano, ma anche una voce da donna, è riuscito a fare un tipo di operazione importante, per cui la voce non diventa per forza leggera così fatta finta, ma diventa la loro voce, per cui corpo e voce sono la stessa cosa, altrimenti il problema diventa ancora più grave, si sente prigioniero di qualcosa di non suo, certo, per questo certo. Fa è quello, un viaggio quello che può terrorizzare, mentre è la lenta modificazione, lenta nel giro di poche sedute, lenta modificazione della voce in senso migliorativo, come di solito avviene, viene ovviamente accettata. Però vedi, questa è una cosa molto bella, nel senso che una persona non deve per forza star male per curarsi. Assolutamente. Una persona può stare meglio di come sta, anche se meglio. Coscientemente dice, ma io sto bene. Noi abbiamo delle potenzialità, il nostro cervello ha delle potenzialità incredibili. Inespresse. E se uno ogni tanto facesse un piccolo percorso, non lunghissimo, ma un piccolo percorso autoconoscitivo, esatto, certo. Questo sicuramente potrebbe dare anche una svolta. Cioè, assolutamente, infatti sono molto interessato e mi vedrai e lo dirò. Perché uno quando esce da quello stato di trance, eccetera, ricorda il percorso che ha fatto, comunque si sente meglio, però questo ne vorrei parlare bene, siccome mancano soltanto 30 secondi alla fine di questo... blocco, non voglio aprirlo per non chiuderlo bene, per cui mi interessa molto, ecco, che cosa, sì, fra 30 secondi andiamo in pubblicità e ne parliamo di questo percorso e cosa succede a livello conscio dopo, mi interessa molto, credo, di interpretare anche il parere di tutti i nostri amici che continuano a farci complimenti e a salutarci. Poi leggerò anche questi altri messaggi che sono arrivati. Allora, signori, a tra pochissimo con Voice Anatomy. Lo sapete, noi siamo qua, il professor rimarrà ancora con noi un altro blocco, ed è a proposito di blocchi psichici, lui rimarrà un blocco molto più sereno, questo qui nella nostra trasmissione. A tra pochissimo, grazie. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Eccoci, come promessi siamo stati rapidissimi. Stavo chiedendo al professore, prima di andare in questo piccolo inserto pubblicitario, se al risveglio uno ha la coscienza di quel percorso oppure si sente solo meglio grazie al percorso che ha fatto. Ha questa coscienza, ce l'ha, non ce l'ha? La coscienza c'è sempre, tranne che nella trance molto profonda. Sì. Lì si possono avere amnesie oppure nei comandi post-ipnotici, cioè può essere un ordine dell'ipnologo, sempre però che la trance sia profonda, di cancellare quello che in quel momento viene detto. Quando si dà un comando post-ipnotico, per esempio, una parola per chiave, fare un esempio qualsiasi, prendiamo il vizio del fumo. Ecco, ecco, ma guardato cosa, perché... Una cosa così. Certo. E uno dà un messaggio di disgusto, no? Certo. Puoi immaginare una sensazione disgustosa quando porterà alla bocca la sigaretta. E questo è un comando che tu dai al risveglio, no, oppure durante l'ipnosi? Durante la trance. Durante e la questo trance. Comando questo comando non viene ricordato. Ah. Il soggetto dopo, quando porta alla bocca la sigaretta, sente un disgusto, sente un qualcosa, e questo può essere uno dei sistemi un po' traumatico, un po' forte, ma non così invasivo, magari, insomma, però può essere utile. Certamente. Se una persona, ecco, non riesce veramente, quindi, a smettere. Quindi generalmente il soggetto ha coscienza di tutto quello che avviene durante la trance, però è come diviso in due, cioè la mente cosciente osserva, però il braccio per esempio se ne va per conto suo. Certo. L'altro braccio sta ruotando, è in catalessi e così via, ma lui osserva serenamente tutte queste modificazioni. Comunque la persona migliora molto, insomma, questo percorso può migliorare molto. Solo durante lo stato di commutazione si possono dare dei messaggi agli organi interni. Certo. Altrimenti, se lo potessimo fare da svegli, ovviamente saremmo dei... Può curare pure il colesterolo, parliamoci chiaro. Può curare anche il colesterolo. Perché poi la tensione, lo stress... Lo stress... Io parlo prima, che sono un tipo molto ansioso, per cui... Lo stress alza i livelli di cortisolo, e quindi il cortisolo in circolo fa dei danni dappertutto. Abbassamento dei fattori immunitari, per esempio. Certo. No? Quindi... possiamo dare una bella dose di sicurezza alle persone. Certamente. È un aiuto come tanti altri. Perché non se ne parla così tanto? Ecco, io sono molto contento di questo percorso insieme, perché sta dando... Non voglio dire che sto sdoganando l'ipnosi, assolutamente no, perché ne avranno parlato anche in tante altre sedi. Il motivo è... Le persone non lo sanno, magari, che possono essere aiutate in maniera... È culturale, il motivo è culturale, un po'... Come lo psicologo, in America se non c'è lo psicologo non vivi. Qui ti vergogni quasi a dire che sei andato dallo psicologo. Un po' è colpa, diciamo, del nostro maestro di tutti, cioè di Freud stesso, ecco, che ebbe paura dell'ipnosi. Lui l'applicava all'inizio assieme a Breuer, eccetera, poi però la smise perché si era accorta che le pazienti entravano facilmente in transfert, cioè si innamoravano del medico. C'era questa empatia. Sì, e lui voleva evitare questo, il famoso caso di Anna Oh, eccetera, sì, voleva evitare questo, e ricorse a un metodo più soft, quello delle libere associazioni, eccetera. E tu, insomma, quindi... ti sei sposato così, raccontiamola tutta allora, Luciano. Cioè, una tua paziente si è innamorata di te, ti sei sposato, non scherzo, ovviamente. No, le mie pazienti si innamorano di loro stesse. Innamorano di loro stesse, cioè... Riprendono coscienza del sé. Della personalità profonda che avevano messo in disparte. Riprendi quella sicurezza che serve a ognuno di noi, cioè, per andare avanti, che è fondamentale. Cioè la certezza di sentirsi parte integrante di un mondo, e tu fai parte di quel mondo, cioè, perché... La depressione, per esempio. Il contatto con la personalità autentica, perché la nevrosi è questa, si è messa in disparsa la personalità autentica e si è tirata fuori, per sopravvivere in senso difensivo, una personalità nevrotica. Certo, per cui anche la depressione stessa, che è un male soprattutto di questo... La depressione stessa è un sintomo. È chiaro che poi quando la depressione è grave, c'è un'alterazione biologica, bisogna intervenire chimicamente, intervenire con un bravo psichiatra, ovviamente. Sì. Però il sostegno sostegno psicologico ci vuole sempre. Ma a parte la medicina, il soggetto deve riprendere contatto con la sua personalità autentica, con quella che ha nascosto, che ha rimosso. Ma che bel percorso, che bella cosa. Vedi, infatti, come siamo a livello giuridico in Italia con l'ipnosi? Cioè, com'è dislocata? Com'è... L'ipnosi-terapia è una tecnica, una pratica che è costantemente usata in psicoterapia, non solo da me, ma da tanti altri. Sì, sì, no, immagino tanti altri colleghi, eccetera. Come dicevo l'altra volta, invece, in campo giudiziario, secondo la normativa vigente, essa può essere utilizzata su ordine del giudice solamente con i testimoni, non con l'imputato. Ah, ecco, per cui si può fare un'inchiesta, sì, o comunque un interrogatorio. In teoria utilizzando... sì, ma in pratica nessuno dà questa autorizzazione. Ah, certo. E nessuno neanche la chiede. Cioè, se anche la persona, l'imputato, può essere d'accordo e dice ok, io sono innocente. No, l'imputato per legge non può essere sottoposto a ipnosi. Ah, ecco, non può essere. È un esame invasivo che non può essere fatto. Perché non è riconosciuto come la comunicazione non verbale, dice quella persona ha paura per cui è colpevole. Allora, quella persona ha paura perché magari ha paura di non essere creduto, per cui non può essere una legge. Ma il testimone, che avrebbe tutto l'interesse, lui e la giustizia, di dire la verità, potrebbe benissimo essere aiutato nei suoi ricordi con l'ipnosi. Però non è riconosciuta questa cosa. O meno, non viene fatta, non viene usata mai. Silenzi miei in questo momento, anche se radiofonicamente la pausa non va utilizzata, però sono momenti che stavo pensando. Usata invece la macchina della verità, quella sì, ecco. Perché è una specie di per esempio lì al centro in cui lavoro, al CEFORP di Firenze, diretto dal dottor Antonio Galli, anche lì noi utilizziamo molto questi strumenti, sia l'elettroencefalogramma, che ci fa scoprire le variazioni delle onde. Dove, sì, ma dove si annida il problema? Ah. Se a livello dell'emisfero sinistro alto, a livello dell'emisfero destro alto, in profondità, cioè una cosa fantastica. Oppure se durante uno stato di trance e nella relativa verbalizzazione vengono fuori delle variazioni toniche molto, molto forti, e attraverso l'applicazione dello strumento del GSR, Galvanic Skin Resistance, e vengono fuori naturalmente. Quella è come una macchina della verità. Sì, un profilo di quel momento, le variazioni del battito cardiaco. Dove sta il punto dolente, insomma. Certo, l'ipnosi non sarebbe male se poi si è portata proprio come prova. Anche l'imputato stesso dice ok, dico la verità, ipnotizzatemi, portatemi in regressione, e lì uno non può dire bugie sotto ipnosi. No, non è possibile. Non sarebbe in trance. Esatto. Non sarebbe perché l'inconscio non è capace di mentire. Ecco. La menzogna. Il nostro cervello limbico. La menzogna è non è capace di mentire. La menzogna è una conquista dell'evoluzione. Esatto, esatto, il nostro neopallio, no? Gli animali non possono mentire, esatto. Noi invece. Noi siamo bravi, le donne sono più brave, professore. Questo ho qualche dubbio. No, loro riescono a modificare il viso, l'atteggiamento, dalla sorpresa reale, magari negativa, di una persona che entra, riescono a farla diventare positiva in 0,3 decimi di secondo. Un uomo ci mette qualcosa in più. Posso dirlo, hanno una potenzialità mentale nettamente superiore all'uomo. Per un motivo molto semplice: i fasci associativi che collegano l'emisfero sinistro e l'emisfero destro sono più sviluppati nelle donne che nell'uomo. Quindi loro utilizzano sia la parte razionale del cervello, sia la parte intuitiva. E noi invece prevalentemente quella razionale. Esatto. Per cui siamo leggermente al di sotto. Infatti, questa è la mia idea. No, ma che è vero, perché così una donna ti guarda e dice non mi piace quella cosa, e tu dici perché? A me piace tanto. Hai paura perché sai che quella persona ha avuto l'intuito giusto. Beh, è così in effetti. È interessante anche questo, la comunicazione certo. non verbale, per cui non si può bleffare, l'inconscio non può. Il vero cervello, quello d'inizio della nostra storia evolutiva, quello era quello vero. Mentire, non conosce. C'hai paura, reagisci con la fissità, con la fuga o con l'attacco. Adesso... oppure con i sintomi. Certo. I sintomi a volte però sono duri a morire. Perché? Perché sono una protezione. Certo. E torniamo al discorso della voce. magari quella voce metallica di cui si parlava prima, certo, serviva da protezione per, certo, non mandare una persona sensibile, in overdose vulnerabile, delicata, a scontrarsi con la dura realtà. Allora, e con utilizzo la voce metallica si, metto tutto a posto. O con i movimenti pacificatori, oppure con altri sintomi. A volte il sintomo è protettivo. Molto probabilmente quella fonia di cui si parlava, sì, prima, quella donna che aveva avuto violenza, quella fonia era una protezione. Cioè, concentrandosi sul disagio di non poter parlare, si evitava l'angoscia del trauma. Si era protetta così, certo. E allora, professore, bello, un altro bel percorso insieme. Io la ringrazio tantissimo, grazie, ti ringrazio tanto. Se volete entrare in contatto con il nostro amico professor Luciano Masi, basta cercare questo nome, eccetera. Certo. Comparirà di tutto. Io ci andrò, e non sto facendo pubblicità, ovviamente, perché anch'io non sapevo dell'esistenza e della possibilità di poter fare un viaggio così importante. Poi mi sveglierò con un'altra voce, chissà. Va bene, noi ci vediamo, ci sentiamo, scusate, abituato con la televisione, tra poco, e tornate a trovarci Valeria Fabrizi per un percorso veramente affascinante sul cinema, il teatro e la televisione. A tra pochissimo con Voice Anatomy. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Voice Anatomy. Bentornati, signori, Voice Anatomy. Stiamo facendo sempre come al solito, vi abbiamo abituati a questi percorsi della voce declinati in tutte le sue manifestazioni, e stanno arrivando tanti messaggi a proposito anche del professore che abbiamo salutato poco fa, anche per la seconda volta come capita in questa trasmissione. Lo ripeto perché qualcuno mi chiede di ripetere il nome, è Luciano Masi. E ovviamente internet la fa da padrone da questo punto di vista, potete assolutamente cercare e chiedere notizie, ma persona di assoluta grande professionalità, senza nulla togliere ovviamente ai suoi colleghi che io non conosco, però è un mondo che mi piacerebbe percorrere. Poi tantissimi messaggi, sto ascoltando la trasmissione, complimenti per questo viaggio interessantissimo, determinante, viva la presenza del professore, date consistenza al tempo. Autentica affermazione di variare durante la terapia. A me veniva detto perché parla in modo infantile e poi riprende il tono adulto. Già, perché Lucia è andato via, ma potrei domandarlo a lui. Insomma, è raggiungibilissimo. Non solo chi fa politica può sfruttare una bella voce, vale spesso più del contenuto. Sì, l'abbiamo detto, soltanto il 6-7% va sul contenuto quando uno parla, il resto, il 40% è sulla voce, il resto sul corpo. Ma aumenta in direttamente proporzionale. Ma anche chi vende può servire, certo, vuoi mettere a, come dice, broccoli o carciofoli. Sì, chi vende è fondamentale l'utilizzo della voce. Noi abbiamo avuto qui un grandissimo preparatore dei venditori, del venditore vincente, che è Frank Merenda, che tornerà sicuramente in questi microfoni. Colgo l'occasione, prima di cominciare a parlare con la mia ospite meravigliosa, che è Valeria Fabrizi, che mi sta sorridendo con fare molto furbo, non so perché mi sta sguardando in quel modo, e sono sposato, Valeria, devi smettere di guardarmi così. Volevo salutare il professore Giovanni Lo Storto, che è un professore meraviglioso, è un amico che ha avuto una piccola disavventura, ma risolta, altrimenti avrei dovuto doppiarlo io. Lui sa a cosa mi sto riferendo ed è molto vicino anche a questa radio e a tutto il mondo del Sole 24 Ore, di Radio 24 e quant'altro. E allora, Valeria Fabrizi, tu non vendi carciofoli con la voce? Tu con la voce ci giochi tanto, Valeria. Sì. Vieni vicino a quel microfono. Senti una cosa, lo sai che ti guardo, sai che tu al buio, in penombra, diciamo, perché questo sarebbe più difficile. Sean Connery. È vero, sì, sono d'accordo con te, come fare? Dichiede no. Ma sai, le persone che non mi vedono dal vivo, tante volte quando mi incontro, come la televisione ingrassa, ma da morire, se non sei più che proporzionato. Certe donne piccoline ma proporzionate sembrano delle statue, poi le incontri dal vivo e sono veramente minute. Tu, anche se piccolina, ma piccola, sei gigantesca in video. Però poi quando mi vedono, peggio di quelle invece mamma. Quando mi incontro, a me si stupisco, dico: ma sei un bel uomo. Sei un bel uomo, sei alto, sei robusto, gladiatore. Ma tu non puoi venire per radio per provarci con me, Valeria. Abbiamo un'età differente, non posso accettare queste cose. Dai. Però i complimenti te li posso fare. Assolutamente, io voglio fare una trasmissione dopo mezzanotte con Valeria. Se si può fare Radio 24 dopo mezzanotte è libero. Che bello, l'ho sempre desiderato, lo sai. È perché non dormi, amore? Sì, non dormo. Ho capito, ma non è che possiamo lavorare insieme perché non dormi. Dobbiamo lavorare insieme perché ci piace farlo. Però sì, un appuntamento notturno può essere bello, ma non per parlare di cose erotiche. Deve fare compagnia a chi non dorme. Esatto, ma mi piace. Poi la radio è evocativa, è come un bel libro. Si può parlare di qualsiasi cosa. Di tutto, poi, ma anche qui possiamo parlare. Noi abbiamo cominciato, ti ho rivoluto, non solo io, ma tutti i radioascoltatori, perché abbiamo cominciato un percorso con te che voleva essere non un'autocelebrazione, una celebrazione della tua figura, che insomma è lì. Cioè, non è che uno prende il curriculum e comincia a raccontare chi sei, ma per il percorso parallelo che hai avuto, come hai intrapreso questo mestiere, le persone che hai incontrato, le persone con cui poi hai condiviso delle cose importantissime, e sono persone che molte non ci sono più, purtroppo. E non c'è stato il rinnovamento di queste persone, non c'è stato ricambio generazionale adeguato. No. Non trovi che non c'è stato proprio? Non c'è stato proprio. Cioè uno dice Walter Chiari e poi adesso chi c'è? No. Niente, ma dappertutto, anche nel teatro. Tu, insomma, hai lavorato con Marcello Mastroianni? Teatro da Porto, Macario, Tognazzi, Vianello, Bramieri. I primi anni sono stati così iniziati con loro. Capisci? E questo non è che voglio, lo dico anche contro il mio interesse, visto che faccio questo di mestiere, ma nessuno può paragonarsi a quel passato. E ma mi credo dispiace. Anche perché oltre questo c'è anche un'inflazione di personaggi, no? Che ti depistano un po', perché poi diventano quasi tutti uguali. Perché poi cantano una sola estate, come si dice, non soltanto per il cantante, cioè nel senso anche di un attore. E questo è il peccato, perché poi grandi professionisti ci sono, ma magari te li perdi per strada perché non hanno più la possibilità di riproporre se stessi o di crescere, perché io, a parte la persona dotata subito, Massimo Ranieri esce a 18 anni e canta in quel modo, poi insomma può essere poi portato avanti, eccetera, eccetera. Ma io preferisco persone che... il mio, c'ho un... Chi mio... chiedi? Morandi, Gianni, bolognese come me. Monchi d'Oro, dove io andavo a fare la camporella, che dicevamo noi, no, con la moto. La camporella, quando eravamo fidanzatini. Non con Morandi. Morandi non sei stata fidanzata. No. Perché adesso percorreremo i tuoi fidanzamenti. Non c'è tua figlia, c'è una nostra comune amica che ti ha accompagnato, per cui possiamo parlare liberamente. Tanto ci sentono poche centinaia di migliaia di persone. Sì, rimane fra noi. Non lo sapevo che era così super ascoltata la tua trasmissione. No, la mia, proprio Radio 24. Sì, ma comunque questa anche perché mi hanno sentito molto... ricevuto delle telefonate, sì. Ce l'hai detto, quindi no, sono gasata. Insomma. Per cui adesso attenta, perché io so molto di te. Sì, ma cerca di essere discreto rispetto all'età, mi raccomando. No, quello assolutamente, c'è un grande rispetto per l'età, però tu mi hai detto delle cose bellissime che io voglio ripercorrere. Guarda che faccia che fa, sta tranquillo. Sono preoccupatissima. No, stai serena. Guardi Alessandro, dico, quando andiamo in pubblicità, quanto abbiamo ancora di minuti? Ancora due minuti solo, ma già vola il tempo così. Insomma, queste persone non ci sono più. Tu oggi hai scritto una lettera che vorrei che tu la leggessi dopo, dedicata a Walter Chiari. Tu mi hai detto devi parlare. Sì, Walter Chiari va raccontato, perché tu l'hai conosciuto. Sì, l'ho vissuto proprio fino alla fine, questa è la cosa importante. Tu con tuo marito, il grande Tata Giacobetti del quartetto Cedra, e questo amico, che è stato una storia della tua vita importante, però dopo è stato l'amico più caro che avete avuto. Diretto dalla sorte, dico sempre io. Sì, perché avete questo triangolo, ma non triangolo erotico, ma un triangolo vero, bellissimo. Bellissimo, raro. Raro, moglie, marito e l'amico di una vita che è accompagnato fino alla fine. E... io trovai poi con il coniglio dopo, lo trovai, io ero andata a cena con, posso dire, una commissione? Sì. E siamo andati, e poi dice, ti faccio la sorpresa, ed è apparso Walter nel ristorante che era andato a lavarsi le mani. E quindi poi alla fine della serata siamo andati a accompagnarlo in albergo, dove lui viveva con un coniglio bianco. Io ho fatto, grazie al coniglio bianco ho ritrovato Walter, perché erano mesi che non lo sentivo, sì. E da quel momento poi non mi siete più staccati. Più staccati, lui è venuto a vivere, l'ho detto a tata, l'ha fatto venire a casa nostra ed è rimasto fino a quando se n'è andato per sempre. Cioè, questa è una cosa meravigliosa. Quindi ho avuto che tutto poi quello. C'è stato il momento in cui Walter Chiari è stato allontanato per motivi, infatti, insomma, che adesso farebbero tutto. Sorridere. Sì, farebbero veramente sorridere. Anzi, accrescerebbero. Ma come è successo un po' per Mina, lo scandalo che non era sposata, queste cose. Oh, penso a te. Sì, no, queste penso. Cose che farebbero veramente sorridere. E allora apriamo subito dopo con questa bellissima lettera che tu hai scritto, che è un ricordo tangibile e terreno e tridimensionale del Dillo grande. Dillo che sto mettendo gli occhiali. Sta mettendo gli occhiali, ma io ce l'ho già fissi addosso, per cui posso dire, ho circa 52 anni meno di te, per cui. Perché io l'ho scritta, però stamattina dico, ma non vado a parlare, meglio che lo leggo. E allora così. Fra poco la leggi, perché adesso andiamo un minuto soltanto e torniamo immediatamente con Valeria Fabrizi, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, un bellissimo messaggio. Non voglio mai, sapete, fare autocelebrazioni o incensare me stesso perché è brutto, anzi lo sapete che leggo soprattutto i messaggi brutti. Programma leggero e interessante, come diceva Miguel Angel Arcas, se il timbro è la pelle della voce, il tono è la sua carne emozionata. Io abbraccio te e ti ringrazio tanto, un bel complimento. Me lo prendo tutto, però qui abbiamo una persona che invece ne merita tanti di complimenti ed è bello fare questo percorso con lei. Chissà che non riusciamo magari a farla davvero, magari una volta a settimana, una notturna insieme per far compagnia alle persone, parlarsi e con l'esperienza tu di donna. Di donna. Sì, perché quella di donna, assolutamente. Con e che tutte donna. Le sue sfaccettature. Assolutamente, con tutti i lati, tutti i lati positivi, buoni, negativi, buoni, le leggerezze, le insicurezze. Insomma, il velluto del passato sono io. Ti amo. Hai scritto questa lettera sì, a Walter Chiari. Cercherò di essere così abbastanza. Ma tanto sei vera, perché tu sei una donna vera, non sei, non fai l'attrice. Cioè, sei no. Un'attrice e sei molto brava quando lo fai. Cioè, qualcuno riconosco la voce di Suor Costanza. che Dio ci aiuti. Ma sì, ma quello è giusto anche quello. Insomma, avere un successo così anche continuando è bellissimo. Bisogna morire in scena, signori. E allora una musica, Alessandro, che accompagni la nostra amica in questa cosa. Sentita e sta cercando. Sofferta. Non so mica perché l'aveva la Marasca, ma aveva. Dico, guarda che cosa ho scritto, che bello. Non lo so mica dove è andato a finire. Comunque, non è questa lettera che è qui davanti a te? No, forse questo qui. Non lo so, Valeria, questa è l'età che avanza, che vedi. Sì, vedi. Se rimaneva il professore. Ecco, la nostra comune ecco, amica. E questo qui penso sia questo. E allora io me lo auguro. Per Walter. A Walter. Il mio sentimento per Walter è sempre stato di natura particolare e non va confuso con l'amore che è esclusivo e mai sopporta tradimenti. Walter è stato un uomo che ha lasciato il segno in me. C'è stato un periodo che fra me e lui si erano accesi i fuochi della passione. Lui rappresentava il mio principe azzurro. La nostra storia è rimasta un tenace e dolcissimo rapporto, un sentimento di natura complice. Un cordone ombelicale sotterraneo mai, mai spezzato, anche quando le nostre vite hanno preso strade diverse. Diceva era scritto nelle stelle il nostro destino. Verona, eravamo nello stesso palazzo, io ero nata lì. Poi se ne andò a Milano. Entrambi eravamo nel mondo dello spettacolo e sono cresciuta negli anni diventando una bella ragazza e una sera andai ad applaudirlo e lui notò il mio cambiamento. Lui era dotato di energia particolare, umana. La gente comune non sa quanto fosse colto, intelligente. Un attore pieno di talento, battuta pronta, americaneggianti, ricco di successo. Raccontava cose magari viste che raccontava e diventava un moderno cantastorie. Lui non scriveva i testi, andava a braccio sviluppando una tecnica antica che si riallacciava alla commedia d'arte. Teatro, cinema, televisione. Lui non usava nessuna volgarità, eppure faceva ridere, generoso con il suo pubblico, più di qualsiasi altro comico conosciuto, magari. Scusami, Pino. Permettetemi di confidarvi che io ero il suo rifugio. Lui tornava sempre da me, dopo la sua aria svagata da eterno fanciullo, un Peter Pan costantemente in bilico tra una candida risata e una malinconica inquietudine. Il mondo dello spettacolo ultimamente lo ha umiliato, era stato messo da parte. Ma il suo pubblico non lo ha mai dimenticato, spesso si sfogava criticando certe grossonalità degradanti nel sistema che il mondo dello spettacolo proponeva. Spesso diceva che nonostante la sua vita disordinata aveva dato e avuto molto, ma aveva sbagliato anche nel non aver separato gli amici veri da quelli fasulli, diceva, interessati, ed essere stato sempre sfruttato. Ma andava bene anche così. Non litigavamo spesso per ragioni delicate che non condividevo affatto e magari eravamo capaci di non parlarci pur vivendo sotto lo stesso tetto. La notte spesso confidava e si apriva il suo cuore, ma era strano il suo atteggiamento. Poi subito cambiava dicendo che era un po' di fantasia. Era come se si pentisse della sua debolezza. Invece io capivo che l'amarezza dell'essere dimenticato e del suo declino fisico lo faceva soffrire. Viveva da noi e Tata l'aveva preso perché lui viveva con un coniglio bianco e l'abbiamo portato a casa. E quindi lui è rimasto lì. Ero rimasta vedova e la sua vicinanza si è sempre vicino a me, con mia figlia Giorda. Ed è stata determinante. Ci voleva bene, un gran bene. E questo rapporto di amicizia è meraviglioso. Ed è stato spesso sprecato dalla malignità sui giornali. Come poi stette male e lo facemmo ricoverare. Ma un giorno l'ospedale, dicendo che io l'avevo così tenuto vicino sempre, e lui mi ringraziava. Una notte lui, su cui vado a braccio, una notte lui mi guardò sul divano e mi disse: grazie Valeria che mi sei stata vicino. Ed era vero, perché io ho avuto tutte le sue angosce, dei suoi capelli d'argento che io li ho vissuti fino alla fine. Devo essere fortunata. Ciao Walter. Beh, anche questa è Voice Anatomy, questo è un ricordo bellissimo di chi ha veramente qualcosa da dire, perché normalmente chi parla di certe persone, chi l'ha soltanto sfiorate e magari va intuito su quello che potrebbe essere una persona. Walter Chiari è un grande, è stato e lo è tuttora, una persona incredibile. E poi raccontare l'uomo, Walter, è più bello, insomma, in questa trasmissione vuole anche fare una radiografia, una risonanza magnetica, una TAC, che è più profonda, che è molto più profonda di una radiografia, per capire meglio cosa si nasconde dietro quella persona, dietro una voce, dietro un personaggio così importante. Che piacere accendere la radio e ritrovarsi ancora. Grazie a Valeria di essere tornata, grazie per il ricordo su Walter Chiari, eccetera. Grazie a te che mi hai dato la possibilità di parlarne, perché appunto qui non si parla mai delle persone che se ne sono andate, che avevano un valore soprattutto anche umano, perché Walter era una persona così. Sì, sì, ma è giusto, perché dobbiamo sapere da dove veniamo, e questa non è melassa, caro Mario, perché qualcuno e altri fanno complimenti, grazie, che bel ricordo, che emozione, eccetera. Non è melassa, parlare bene delle persone non è melassa, parlare bene delle persone che meritano tutto questo, anche se queste persone ovviamente hanno tutti i lati del mondo, come ce l'ho io, come ce l'ha Valeria, come ce l'ha ognuno di noi, certo. Ognuno di noi non è perfetto, però sono persone che hanno lasciato un segno. Io ho lasciato solo in segno, nient'altro. E invece certe persone lasciano il segno. Come dai, su, capito? Come no. Wow. Tu mi hai dato sempre forza e fiducia fin da quando ero piccolo. Però, questi sono segni importanti di vita, segnali che ti fanno compagnia. Non è che i sabato sera passati insieme a queste persone sono passati inosservati. Io lo ricordo loro perché era un momento di grande aggregazione. Sì. La televisione non era un elettrodomestico pronto ai nostri ordini a cambiare dalla docu-fiction alla fiction al film al telegiornale a cosa, ma era un appuntamento fisso che era un momento fisso anche per la famiglia, e non era che ti distaccava dalla famiglia. I ricordi più belli ce li ho con papà, mamma, nonno e nonna il sabato sera davanti al televisore, anche a sfogliare quel biglietto della lotteria Italia, vero, che sapevi che non vincevi mai, ma te telefonavi per dire: mannaggia, due numeri erano quelli, due numeri, ma la serie no, ma erano due numeri, li abbiamo presi. Io lo ricordo con grande affetto, sono quei sapori che ti rimangono in testa, sì. E non sono cambiate le cose, perché ci vogliono convincere, tanto il calcio è cambiato, sì, ma non sono cambiati i tifosi, per cui, perché me deve cambiare sto calcio? Dice: la televisione è cambiata, sì, ma gli spettatori non sono cambiati, sì, è vero, ci sono i ragazzi che sono in una direzione di rapidità, di computer, eccetera, ma quando gli fai vedere una cosa che dura anche 20 minuti, come uno sketch o un monologo, e capisci che lo stai a guardare, non è lungo. È bello. Ci stanno le cose corte, brutte, che sembrano lunghissime, ci stanno le cose lunghe, belle, che sembrano corte. Condivido. Ecco, questa è l'occasione migliore, per cui è soprattutto raccontare una storia del genere, questo triangolo d'amore pulito, Pulito. Io poi non so pulito. Se tu hai letto e mi hai detto che i giornali no mi fido i giornali hanno i giornali detto. È questo che non mi piace, cioè che vanno ad indagare. Ma io non mi vergogno neanche di dire che quando noi si viaggiava così molte volte, io Walter era in crisi e io non è detto, perché io ci dormivo, anche perché per me era proprio l'amico, il figlio in quel sì, momento. Sì, ma poi quello ci deve essere stato sorella. c'è stato ma ormai allora... la nostra età non potevamo manco più sognarcelo neanche con la fantasia, ma e quindi io a quanti anni ci ha salutato Walter? Quanti anni aveva Walter Chiari? Se n'è andato, dunque lui era dell'8 marzo, 8 marzo del 24 e lui andava nel 91, quindi 91. Facciamo i calcoli, è andato al 60... Giovane, 67? 67. Nell'81 o nel 91? Fateci il calcolo, nel 91 è morto, sì. Stata nell'88, lui nel 91. È 67, cioè, più o meno, insomma è 67, sì. Giovane, calcolando la media d'età, come sì. sale. È stata pure molto giovane. Cioè, 64. È stato il primo del quartetto Cedra ad andare fra gli angeli a cantare. Canteranno lassù, si saranno incontrati ovviamente, perché io credo che ci ma sia. Ma sì, ma se uno perde questa coscienza è finita. Immagini come saranno armonizzati bene. No, quello è fantastico. E per cui un amico come lui non c'è stato. No, un amico così, un altro per, amico. Ma per chi? Per te, me? Per no. Te. No, così no. No, così no. No, così no, perché è. Io l'ho amato, per cui è rimasto sempre un sentimento superiore a un'amicizia. Certo. Hai capito? Senza togliere nulla a mio marito, che io ho amato anche mio marito. Diciamo che io ho amato due persone veramente, se si vuol parlare di amore. Certo. Io ho amato Walter e poi dove mi sono sposata è Tata. E poi Walter è rimasto però nel mio cammino della mia vita e quindi... E sono sempre stata coinvolta in tutte le sue avventure, tra l'altro, che sono sì, è la sua migliore amica, è il suo migliore amico. Amico. È carino, mi piace, ma, il suo migliore amico. Ma questo è bellissimo, credo che altre donne magari possono vivere in maniera molto più, meno tridimensionale una storia del genere, magari cercano conforto in una situazione del genere, perché una donna magari non ha avuto il coraggio come te o l'eleganza e l'intelligenza di Tata di dire sta con noi. Ah sì, certo. Magari ci sono donne che in questo momento stanno vivendo una situazione del genere con grande vergogna, perché dice chi amo, il mio marito o il mio ex uomo certo. che ho amato. Infatti, magari in questo racconto possono specchiarsi e dire beh, in fondo bisogna avere vicino però un marito molto intelligente. Molto intelligente, sì, loro erano molto amici comunque. Capisci, e lo sono rimaste comunque. Fino alla fine, perché io cioè, non conoscevo tua neanche figlia poi tanto. È testimone di tutto questo. Sì. Giorgia è sana e ne parla con il cuore aperto, per sì, cui sì. sai lei è stata, lui è stato molto vicino a Giorgia quando gli è venuto a mancare il papà. E qui non sono invidioso, ovviamente nella mia vita il mio successo non è l'insuccesso di un altro, ma in questo caso sono invidioso di non aver potuto sfiorare Walter Chiari, scusa se l'ho chiamato per nome perché non me lo posso neanche permettere, l'ho solo sfiorato una volta in una festa di Gorni Kramer, facevo 80 anni, era ospite anche lui. Pillole. Ci incontrammo in questa piazza a Mantova, ovviamente mi fermava davanti a lui e mi ha detto tu c'hai il mio stesso sguardo. Ti ha detto? Mi ha detto ciao. Carino. Finito il mio rapporto con Walter Chiari. Ah, però solo in quell'occasione? In quell'occasione, l'ho sfiorato lì, ma è pronto tu... chi gioca e venne ospite, il resto ce l'ho nel cuore, insomma. Mi spiace. Sono invidioso, solo in questo. E noi siamo, altro blocco, fra un minuto, poco più, torniamo immediatamente. No, perché sai quante persone mi ringraziano, perché quando Walter viveva da me, molti venivano a trovarmi con lo scorso. Però adesso mi racconti fra poco, amica, che te, ma amica vai via, oh. Fra poco, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci. Allora, tanti messaggi qui per Valeria. Sono cresciuta con Chiari e a ben vedere fin da bambina alla TV e gli sapeva far trasparire l'uomo al di là dell'autore, dell'attore e uomo di spettacolo. Ancora grazie, eccetera. Del povero Walter Chiari sappiamo tante cose. Quali cose sapete? Parliamo della droga? Vogliamo parlare serenamente del 2016? Di un vizio di una persona, parliamone. Non parliamo di tutti quei, dovremmo fare un elenco adesso. Esatto, parliamone seriamente, ma quello non giudica, cioè no. non caratterizza una persona se è stata la debolezza in un fattore critico della sua vita dettata da cose che esulano dalla nostra competenza, ma non è quello che racconta un uomo, non è che assolutamente sotto effetto di LSD ha picchiato dei bambini per la strada. Non staremo qui a parlare di Walter Chiari, che lui a parlare poi... era una persona che si gestiva bene, cioè nei momenti di tristezza, ma una volta negli anni cos'è che ha cominciato il teatro con la con la Magnani, ha fatto delle cose, certo. E quindi quando ho cominciato c'erano tutti quanti avevano questo vizio sottile, diciamo. Non è che cioè Walter non si drogava, Walter ogni tanto prendeva la cosiddetta cocaina, ma ogni tanto, soprattutto nell'ultimo periodo, lui si era probabilmente lasciato andare. Era solo, non era la depressione di un uomo che era stato ripudiato dal suo mondo, sì. E che, signori, fa male. Ora dico le persone più forti, non dico che devono le persone devono rifugiarsi in questi elementi chimici che possono prendere il posto della vita. No, però ci sono persone che reagiscono in tanti modi. C'è chi si suicida. E non per questo bistrattato. Allora parliamo di Monicelli, un uomo straordinario che ha pensato di salutare la vita nel modo più traumatico del mondo. Non è che rimetti in discussione un grande regista, un grande autore, perché ha deciso un'uscita così plateale dalla vita. Avrà avuto i suoi motivi. È questo che non dobbiamo giudicare. Sono queste le ipocrisie, quelle di non capire che ci sono delle reazioni che non possiamo interpretare e non sta a noi giudicarle. Sta a noi giudicare quello che una persona ci ha lasciato, quello che una persona ci ha dato. E non, sai, se ci avesse tolto qualcosa, dico ok, va bene, non staremo qui a parlarne. Ci sono altri che ci tolgono delle cose e magari non si fanno manco un grammo di coca. E ce ne tolgono tante quotidianamente e non le andiamo a giudicare. Pensa un po' chi invece ci ha regalato tutti i sogni del mondo e andiamo a giudicare. Allora pure il grande Mastroianni, che fumava come un pazzo, dice beh, se l'è cercata. Io l'ho visto dormire con una sigaretta in bocca, Mastroianni al doppiaggio, mentre ero lì all'International Recording e volevo avvicinarmi al grande Mastroianni. Pensavo che era sveglio, perché insomma stava fumando, invece stava dormendo con la sigaretta in bocca. Rischio. Lui diceva no, lascialo stare, sta a dormire. Anche lui si è dato al bere e tutto. Non lo so quale meccanismo Guardate pure i grandi attori, ma gli americani soprattutto, che escono dai cliniche, non è che vai a giudicare perché quello, o Robin Williams perché si è tolto la vita. Ci ha lasciato uno strappo molto forte, anche se non lo conoscevamo intimamente come Walter Chiari. Però sono cose che non possiamo giudicare. Uno dovrebbe indagare, dice, è stato debole oppure è stato coraggioso, perché poi ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, ecco, questo lo penso sempre. Ci vuole coraggio, ci vuole debolezza a togliersi la vita, ma questa non è la nostra trasmissione che può raccontarlo. Evviva. Però non bisogna neanche giudicarlo così. Insomma, tu adesso, Valeria, questi grandi... Tu hai conosciuto veramente delle persone incredibili. C'è stato anche un americano bellissimo che hai conosciuto, non si può dire? No, adesso no. Quando mi quando ti va? Quando ritorno. Ah, quando sì, fammi passare il tempo, perché voglio tornare qua. È diventata Valeria Fabrizi Sersia Puntale, è diventata una soap opera, non è più un ospite, è una fiction. Lei ormai è abituata, con che Dio ci aiuti. Ma dimmi chi è quell'attrice della mia età che ha ancora tante cose da raccontare e che è in vita. Ma io ho tanto da raccontare. Ma soprattutto con la brillantezza che hai tu. La vitalità ancora che ho. Certo, è quella, ed è naturale. Sì, sì. Ecco. Naturale anche, non vedi che non ho nulla. Neanche il trucco, neanche, sei rifatta niente. Nulla, non mi sono. No, una cosa te la sei rifatta. Due i denti, sì. No, te sei rifatta gli occhi a guardarmi, questo. Ti scruto. Quello sì, no? Le patologie dei denti, che hai detto, dei denti. Sì, ho fatto un'implantologia al dente. Ho capito, ma mia ci ha messo il silicone ai denti. No, sono denti naturali. No, anche le labbra mie sono tutte naturali. Capire che ho più capsule in bocca che la NASA, per cui tu parli di implantologia dei denti. Mia madre diceva da piccolo, troppe caramelle, guarda che tu te metti la dentiera a 20 anni, ma non c'aveva tutti questi denti. Ormai c'ho un dente, sì, no, l'ho detto, c'ho le capsule come l'Apollo 12. Senti, dimmi, che vuoi fare da grande? Da grande? Ma io ho un sogno nel cassetto, caro. Ce l'hai, ma non riesco a realizzarlo. Qual è? Dico, prima di morire, data l'età, mi piacerebbe tanto fare Gli angeli con la pistola. Ma perché non me lo fanno fare? Angeli con la pistola. Io canto, ballo, recito, sono drammatico, sono brillante. E fai un lancio, sono completa, scusa, apri un sito, non conosco più nessuno, sono morti tutti. Ma no, io sto bene. No, nel senso che i produttori Lo so che i produttori di teatro, lo fare a teatro. Angelo con la pistola fu un film di grandissimo successo. Sì. Bad Davis, io ho l'età per farlo. Peter Falk c'era pure, Falk c'era. Glenn Ford. Peter Falk non c'era, no, Angelo con la pistola, non penso poi c'è questa presenza di Peter Credo, Falk. Credo, non posso stare, vado a vedere il film. Controlla un attimo Gaia o Alessandro in internet, Angeli con la pistola, se ci dite, il film è bellissimo. Lei, tu vuoi fare la venditrice di mele? Sì. Fare la vecchina. La vecchina. Che no, dà la mela sempre il portafortuna al gangster prima di fare i colpi. No, ma me lo ricordo bene. Bella la storia è bellissima. Non so se ne hanno fatto un musical o no. No, dovevano farlo perché la Melato, poverina, me la incontrai a Genova. C'è Peter Falk, lo vedi? Ah, che bravo. Poi Alessandro, il nostro tecnico. Chi è? Glenn Ford, Bette Davis. La regia era, aiutaci, perché... Frank Capra, no? Frank Capra, è vero. Capito? Beh, qui c'è la capra, ma comunque... No, Frank Capra, la vita è meravigliosa. Arriva John Doe, è arrivata la felicità. Frank sarebbe Capra. Un musical bellissimo, secondo me, sarebbe. Perché sono tanti... sarebbe bella. Io ve la consiglio anche qui. Ogni tanto diamo dei consigli con i nostri attori doppiatori. Ripercorriamo la storia di certi film e certe cose che ci siamo persi. Bisogna assolutamente andarle a ripescare. Io farei come legge, metterei proprio La vita è meravigliosa ogni Natale in tutte le famiglie, di vederlo questo con... il grande Jimmy Stewart, questa storia meravigliosa che fa sognare se non fossi mai nato, e gli fa vedere l'angelo Clarence che deve ancora mettere le ali, gli fa vedere la sua vita se lui non fosse mai nato, per cui la sorella non si sarebbe mai sposata, sarebbe tenuta la sorella, sarebbe morto quel bambino che lui non ha salvato, il farmacista avrebbe dato un veleno al posto della medicina perché si era sbagliato, per cui era in galera, cioè sarebbe cambiato tutto, e lui, perché era pieno di debiti, voleva morire, e Clarence invece fa vedere questa vita senza di lui, e lui dice no, rivoglio la mia vita, e quel giorno tutti gli riportano un perché aiuto. Perché non gli ripropongono questi film? Questo è molto, perché è molto americano da questo lato, però è un film che ti fa stare bene, cioè io piangevo da solo a Piccolo Cime Tempestose con Laurence Olivier, lo vidi con i miei genitori e mi vergognai che mi commuoveva. Un giorno lo fecero di pomeriggio, mi chiusi dentro al salotto e ho detto mamma c'ho da studiare, e mi vidi tutto Cime Tempestose. E credo che sia una delle frasi più belle che un uomo può dire a una donna, questo Eaglif, questo vecchio trovatello, questo giovane trovatello che crebbe con questi due fratelli in questa brughiera. E poi se ne va perché dice io sono un re, sono figlio di re, andrò a trovare i miei avi e tornerò qui e ti sposerò. Nel frattempo ovviamente le cose cambiarono, lui non tornava, lei si sposò con David Niven che era il ricco proprietario terriero. Hai conosciuto David Niven? C'ho la foto con lui. E ovviamente lei non ha mai smesso di amarlo, Laurence Olivier, Eaglif, e lui torna e viene a sapere che lei si è sposata e farà di tutto per riprendere. Lei ovviamente era ancora pazza di lui e si ammala correndo nella brughiera per cercare lui e muore così, ma muore fra le sue braccia perché David Niven entra e dice no, lasciala, no, lei è mia per sempre. E gli dice non posso vivere senza la mia vita, non posso morire senza la mia anima. Io credo che una frase del genere metterebbe in vita chiunque. Non posso vivere senza la mia vita e non posso morire senza la mia anima. Senza la mia anima. Lei è mia per sempre. Beh, io ero un bambino e mi segnò per sempre una cosa del genere. L'hai usata questa frase? E mi hanno sgamato che non era mia. Hanno scoperto subito che non era la mia. È troppo costruita. Ma è bella, ma... comunque ti aiuta a vivere meglio. Io non credo che non ci siano tempi o melassa o dolcezza spropositata che non facciano bene all'anima. Poi fa cose. Bene commuoversi. Ma sì, noi ci hanno sempre abituato, soprattutto i maschietti, l'uomo non piange, l'uomo è forte, allora cresci così e poi ti vergogni di quella lacrima. E invece no, invece io mia moglie mi strilla perché piango tanto. Piangi? Davanti ai film. Come, io. Sì. Una cosa brutta proprio. Come brutta? No, bella, nel senso, una cosa brutta si dice per dire l'esagerazione. Vedevo la casa sulle... Io poi cerco questi film, c'è The Notebook, le pagine della nostra storia, che vi invito a vedere, di Nick Cassavetes, regista figlio di John Cassavetes, con una Jenna Rollins meravigliosa. Bellissimo. E io mi sono girato, ero gonfio, mia moglie fa non te si può guardare. Anche lei era commossa, Alessia. Ma non a questi livelli, non te si può guardare, rimasi così. Qual è il film della tua vita? Tu ce l'hai? No. Non ce l'hai un film che dice questo mi ha segnato. Questo io mi il primo piace. No, pensa. Ma Davinci Vedo l'hai conosciuto, scusa, è salto da un argomento. È qui in Italia. Che stava facendo? La Pantera Rosa? No, no, stava facendo un altro film. Vabbè, ne hanno fatti così lo ricordo. Tanti. Sì, no, perché te lo volevo dire così, dunque, no, Davinci, ma hai distolto tu prima di una cosa che ti volevo dire. Lo so. Mannaggia. Quel mi verrà in mente poi. Vabbè, qui altri. Comunque. Bellissima come sempre, bravissima, viva Valeria. Oggi pomeriggio ogni tanto va via la voce, da quando è iniziata la trasmissione Voice Anatomy. Che vuol dire? Non so. Cos'è? Ti va via la voce a te, Licia, o va via la voce per la connessione? Oh, non lo so. Noi, non è che è rimasto siamo... qualcosa che ci hanno ipnotizzato? No, è rimasto qualcosa del professore. Sì. Parliamo al codice fiscale e va via. Il sogno del cassetto era questo. Il sogno, no. Ecco, Angeli con la pistola era. Ah. Che vuoi farlo? Sapete che costa il teatro? Ormai si sa, è come il delitto, non paga il teatro, cioè, è una grande soddisfazione. Infatti, io non smetto mai, cioè, no, non smetto mai di Notre farlo. Notre Dame, i produttori, questi che fanno tutte queste commedie, sì. Queste super, è una super produzione. Sì, sì. E questi dovrebbero. E che quello è un titolo che poi è andato bene in tutto il mondo, fatto con la musica di Cocciante, devo dire straordinario, ha avuto questa eco per cui. Ma anche solo quello hanno fatto, ne ha fatte anche altre. Sì, ecco. Però ecco, Angeli con la pistola è un titolo che magari non provoca quella. Dice che cos'è? Chi lo conosce? Ah beh. Sì, si fa. Non mi si fa quando esce un film, mica uno sa che va a vedere un film che. Sì, ma magari c'è un nome che ti trascina all'interno di quella. L'attenzione la deve tirare fuori qualcosa. Il regista, l'attrice, gli attori. Il perché si fa una cosa del genere, perché si creano degli devi creare quella pill, sì. E tu non sei mica da poco come pill. Ah sì? Fai la vecchina che vende le mele. No, questo sembra il vecchietto del Far West di Virginio Cazzolo. Mi ricordo com'è, fallo, mi ricordo quando no, caro Gioia, sono proprio contento. Ecco, questo è Voice Anatomy e lei è ciò che resta di Valeria Fabrizi. Allora, ci salutiamo e poi affronteremo l'ultimo blocco insieme con Valeria. Poi ascolteremo anche i risultati. Che poi la mia squadra gioca, credo, alle 18. L'altra la squadra, mia? La tua gioca. Tu sei Bologna o sei? La Roma. Ah, la Roma gioca stasera. Hai capito? Siamo pure. Sì. È il diavolo dell'acqua santa. Chi è il diavolo dell'acqua santa? Non si sa, ma siamo di due opposti. Va bene, noi giochiamo più tardi, per cui siamo amici fino fino a poco. Va bene. A tra poco con ciò che resta di Pino Insegno e Valeria Fabrizi. Grazie. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio. Progettofuoco.it. Vi presenta Voice Anatomy. Ultima parte di Voice Anatomy, la faccio sotto braccio a Valeria Fabrizi. Ringrazio tutti i messaggi che arrivano sempre copiosi di complimenti, anche quelli di quelli che no io li leggo, per cui tranquilli. Mi piace sempre che la mia amica Francesca, ormai amici sono quelli che scrivono costantemente che ha un cane che si chiama Pino e sono in montagna, tranquillo perché ti ho registrato il programma, così quando torno ti ascolto rilassato sul divano. Sorrisi da Francesca. Lui si chiama Pino, il cane suo, ma in collega, cioè, no, non so se è un'offesa, è una cosa bella, perché insomma, c'è un cane che si chiama Pino, uno facendo l'attore. Ma li mettono i nomi umani, sì, Arturo, Franco. Sì, di nomi umani di un cane non mi piacciono tanto. No, anche a me. Però beh, lo chiama Pino, però Pino. Beh, ci può stare, soprattutto a Natale. Per carità di Dio. E poi sono i nostri podcast. Mi raccomando, signori, Voice Anatomy è in tutti i social, soprattutto nel nostro sito Voice Anatomy su Facebook, dove noi carichiamo, a parte le foto, le curiosità, ma anche e soprattutto i video dei nostri attori, dei nostri attori doppiatori, in questo caso anche di Valeria, che legge quella bellissima lettera dedicata a Walter Chiari. Per cui, insomma, a parte questo sogno nel cassetto, e David Niven, vabbè, l'abbiamo sfiorato, ma non ci siamo usciti la sera. No. Sì, sì, sono uscita una sera. Con David Niven. Tu parli con inglese? David Niven. No, assolutamente. Ma come dai? Esci con David però, Niven, come ci parli? Gesti? No. David Niven sono uscita una sera, ma mica da sola con lui, scusa. Ah, non eravate, no. Non lo so, non c'ero. C'era altra gente. No, c'erano altre due o tre persone. No, non c'era. C'era un'altra persona che poi è andata via. Per cui in tre. Racconterò, no, con David assolutamente. A parte David Niven, ho conosciuto lui. E, io giravo Betasom, stavo girando con James Mason. E venne a trovarlo con alle James linee Mason. Ma tu lo butti lì così, cioè io ho fatto un film eravamo, con tutto rispetto, eravamo io, Gigi, Andrea, cioè, con James Mason. James Mason, ragazzi, cioè, sì, e venne a trovarlo alle Guinness. Certo. A trovare. Quindi ho conosciuto tutti e due, perché in uno, con uno ho lavorato e con Ale Guinness venne a trovare. Erano molto amici. Obi-Wan Kenobi, per dirlo a chi magari non sa chi è Sir Ale Guinness. Spiega. La cosa più semplice, che proprio lui è un attore shakespeariano, sì, straordinario. Ma anche James Mason era piccolino. James Mason era il dio, era più... sul Paradiso può attendere, e faceva sì, il capo del Paradiso. E quindi è leggermente più piccolo di te, di un 20 centimetri. Per cui 1,70, perché io sono 1,90. Sei 1,90. Ma sei... no, amore, sto scherzando. No. Sono 1,76. No, con le scarpe, quelle col tacchetto in te. No, col tacchetto interno sono 1,78, però non si dice questo qui. Per cui stavi girando con James Mason. Con James Mason, Beta, certo, Somston. Cioè. E quindi, certo, c'era Ferzetti e Alberto Lupo. Alberto Lupo. Che avevamo una scena di un bacio e, capito, il regista non ci fermava mai. A lui non gli è parso vero. Per Alberto, cui da pomiciato. Ma era un bacio cinematografico? Lui ha tentato l'apertura. No, com'era Alberto Lupo? Splendido, un amico. Cosa mi succede stasera? Sì. Ti guardo ed è come la prima volta. Wow. Che cosa voce, sei? Sì. E lui era la voce, sì, sì, la per voce, eccellenza, no? Sì. La Cittadella fu molto bella con Alberto Lupo. Anche Betasom, che noi... No, Betasom, scusa, perché in fondo è un certo Harry Brent. Un certo Harry Brent hai fatto con lui. Sì, ho cantato anche la sigla finale. Eri tu la sigla finale? Sì, io. E poi abbiamo girato a Londra, ci siamo persi, te l'ho detto, nella campagna del Kent. No. Si è persa nella campagna del Kent con Alberto Lupo. Che già il cognome non aiuta nella campagna con un lupo. Rischi una calappiacani. Abbiamo perso il treno per tornare a ma Londra. Nel Kent. E siamo rimasti a dormire lì in una baita. Non voglio sapere. No, abbiamo dormito insieme. Ho capito, Valè, però pure te ti cerchi questa storia. No. Abbiamo dormito insieme, era un amico. Nella camera, con Walter ci sta. Vabbè, ho capito, nella camera. Dove dormi con una persona? Io sono un'amica degli uomini. Allora, abbiamo dormito in una camera, due letti, che c'entra in, sì, poi là. Ma vuol dire niente abbiamo, questo. Che facevamo se non c'era altro posto? Dove dormavamo? Sul prato, nei boschi, non lo so, non mica. Non so, era più romantico, però se mica, beh, senti, diventa bolognese quando si arrabbia. Sono bolognese. Ho capito, ma non diventi molto di più. Per cui hai dormito con Alberto Lupo? La mattina ha detto, penso se dicessi agli amici raccontassi che ho dormito con Valeria Fabrizio, mi fanno passare per una... Vabbè, e non è successo niente. No, non è successo niente. No, niente. Però, dopo il film, facciamo il film e quindi lì ne approfittò del bacio. Ah, del bacio ne approfittò, sì, però sì. Cinematografico. Ma siamo stati molto amici. Ti sei persa molto con tante altre persone americane? Nessun americano. Hai conosciuto di importante, bello, Paul Newman, Marlon Brando. No, Paul Newman, no, magari. Joe Aitich l'hai conosciuto? No. Ammazza. Joe Aitich è uno dei più grandi. Sì, no, no. È Giuseppe Insegno, in inglese. Ah, ma tu guarda che mi approfitta perché non capisco l'inglese, no, forte. Valeria, resta qui, come tanto tornerai perché dobbiamo farci queste chiacchiere. Perché posso dirlo, Dove stai domenica? A Viareggio. Che c'è un carro... Cioè, se c'è un carro... Dedicato a te. Non lo so, spero che sia così. C'è un premio e poi vestita da suora, non lo so. Fanno Dio ci aiuti e carro allegorico. Penso, sì. Non lo so, poi te lo racconto quando torno, se mi ricordo. Resta qui in linea, che chiudiamo insieme la trasmissione, che dall'altra parte fra un po' cominciano i tre moschettieri con tutti i convocati, che sono i nostri giornalisti sportivi. Che raccontano quello che è successo. Allora, in questi pochi minuti che sono rimasti, mi danno i risultati delle partite che stanno giocando. Posso stare allora a ascoltare? Devi stare, anzi, è meglio che ci parli tu con Capuano, io non ci voglio parlare. Tanto la mia squadra non sta giocando, la tua neanche, per cui siamo serenissimi. Capua? Sei tranquillissimo, la tua gioca tra un'ora e 8 minuti. Senti come è preciso. Ma hai visto, ma non dici niente, signor Fabrizio, senti che... È giovane, non mi conosci. Sono giovane, no, sono un ex giovane. Quanti anni hai, Capua? Sono del 71, quindi fa un po' i tuoi conti. C'è 45 anni. Sì. Potrebbe essere mio figlio, dati un regolato. Ho capito, ma con un inizio di prostatite molto forte. Allora, Capuano, che cosa ci racconti? Ma intanto ti racconto che ne è finita solo una. Genoa-Udinese 2-1 ed è stata emozionante. Vinceva l'Udinese e ti dico che al 90esimo Perina ha parato un calcio di rigore a Totò Di Natale. Mamma. Questa era una partita decisiva probabilmente per la salvezza. Il Genoa si tira un po' fuori dalla crisi, l'Udinese invece è invischiata, è alla quarta sconfitta consecutiva. Poi come la Sampdoria. Ha appena segnato l'Atalanta contro la Fiorentina. Piniglia, la Fiorentina sta vincendo 3-2 e mancano un paio di minuti. Siamo in tempo di recupero, sarà un finale Stanno torrido. Giocando ad Atalanta, se non sbaglio. Stanno giocando ad Atalanta, sì. È tornato al gol Kalinic. Questa è una partita importante perché la Fiorentina così finendo sarebbe terza in classifica e potrebbe respingere l'assalto della Roma questa sera, poi del casino di Totti, immagino tu sappia. Sì, io ho saputo da poco, ma non faccio il finto tonto, non riesco a prendere una posizione, nel senso che ho saputo delle dichiarazioni, però non le ho sentite, del capitano, e so della reazione giustificata, se sono state quelle le dichiarazioni di Capitan Totti, di un allenatore deciso. Sì. Tu parli male di me di questa situazione, tu come gli altri, sei considerato come gli altri, non c'è lesa maestà, e prendo una decisione. Però prima di decidere, ovviamente lo giudico oggettivamente tutto questo, un conto lo sfottò e il gioco Roma-Lazio, un conto la realtà, insomma, oggettiva di riconoscere in Totti un grande campione. Sì. Però non so che cosa c'è l'ha portato resa in questo dei momento. Conti a colazione. Non so che cosa l'ha portato a dire Totti, una cosa, insomma, del genere, perché Totti si è arrivato a 40 anni, una carriera strepitosa, macchiarla così in questo momento dove serve magari il tuo aiuto anche dalla panchina. Non so, può succedere anche qui uno stato depressivo importante, non lo so. Non lo o so. Forse semplicemente la difficoltà a prendere coscienza che il tempo è passato, e che un allenatore ha diritto a fare le scelte, però è divisiva, perché ad esempio, come tu sai, Totti ha già in tasca un contratto di 3 anni da dirigente, e la domanda che noi faremo anche dopo è: ma è compatibile la figura di Totti dirigente se il suo finale di carriera è questo alla Roma? Questo è grave. Mi dispiace, non so, avrebbero potuto lavarli in famiglia questi panni e non macchiarla con questa litigata tridimensionale che poi coinvolge tutti, o il contrario di tutto, perché prendi le difese, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, amico mio, altri risultati? Guarda, te li do rapidamente. Il Sassuolo ha battuto 3-2 l'Empoli nel Festival degli errori del signor Valeri, il direttore di gara che ne ha combinati tutti i colori. 0-0 tra Torino e Carpi, gara che è agli ultimi secondi. Anche qui c'è stato un calcio di rigore sbagliato dal Toro alla mezz'ora del secondo tempo. L'ha sbagliato Maxi Lopez, l'ha parato Belek. Tanto per cambiare, anche questo rigore completamente inventato. Questo è un weekend un po' così per gli arbitri. Sfortunato per gli arbitri. Sì, sì, sfortunato. Siamo davvero agli ultimi istanti di Atalanta-Fiorentina, siamo già oltre il terzo minuto di recupero e la Fiorentina ha vinto. Fischio finale in questo momento, così il quadro è completo. Fiorentina batte Atalanta 3-2 alle 18. Dicevamo, c'è Frosinone-Lazio, che è una partita importante non solo per te, ma anche perché, ad esempio, vincendo... Che vedi, Valeria? Che vedi? È un derby, sì. Allora anche Roma-Frosinone è un derby. Sì, ma tra l'altro vincendo il Frosinone andrebbe a pari della Samp al quartultimo posto. Poi questa sera 20:45 Roma Palermo, domani Napoli. Non sto prendendo in considerazione. Non me vedi tutto. Sei come un dottore, lascia qualcosa aperta. Ti auguro ogni bene, una buona trasmissione, salutami gli altri, grazie davvero. Grazie, un saluto anche a voi. Certo, grazie. Ciao. Valeria, grazie anche a te, mi piace tantissimo Valeria, bellissima, carismatica, fa parlare un po' Valeria, sta un po' zitto. Grazie Ale da Brescia, che devo fare? Scusami Ale, starò più attento la prossima volta. Un abbraccio a tutti, ciao, Voice Anatomy torna domenica prossima, ciao Valeria. A tutti.